La zanzara. Estate. Con Alessio Maurizi. Buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati, 18, 20 e 30 all'orario della Zanzara estate, staremo insieme appunto fino alle 20 e 30 aspettando i vostri interventi all'824 0024, Cristian Goldoni, Laura Faggini in redazione, Valeria Bernardi in regia, Alessio Maurizi al microfono, tra poco anche con i titoli dei TG, adesso però iniziamo parlando di cosa parliamo, ma intanto mettiamo una canzone, la facciamo sentire tra poco, Tutti contro Monti. Tutti contro Monti da sinistra, Max Gazzè, adesso sentiremo in una intervista a Radio Bici, si è lasciato andare a qualche commento politico, forse era meglio se si asteneva, secondo me ne guadagnava la sua figura d'artista, credo, ma non voglio anteporre i miei giudizi alle sue parole. E invece la destra, come di consueto, Daniela Santanchè, che molti danno vicinissimo a Berlusconi, il PDL continua a sostenere Monti, però ci sono queste voci molto molto critiche, come lei ieri sera in onda. Cominciamo però a sentire Max Gazzè, Tutti contro Monti, nel giorno nel quale Monti incassa l'endorsement dell'agenzia di rating Moody's, cioè di Fitch, su di lui in particolare, come governo credibile, il governo Monti, dice Fitch, uno dei capi di Fitch. E invece Moody's dice che l'Italia e la Spagna se la caveranno entro il 2013, quindi incassa due punti. E però le critiche sul tappeto restano. Max Gazzè, Monti un cecchino. Ma guarda, mi piace, assolutamente no. Mario Monti è un cecchino, pagato da chi deve essere pagato. Mario Monti è presidente europeo della Trinata, della Commission, per cui sta lì in Italia a fare il suo dovere, a eseguire un compito. E probabilmente è un governo inglese quello che abbiamo, non un governo italiano. Un governo inglese, Monti presidente della Trilateral Commission, dice Max Gazzè in questa intervista. Stanno pedalando, l'atmosfera è rilassata, si parla anche di politica perché poi gli chiedono se parteciperebbe a un governo Zingaretti a Roma, lui che vive a Roma, Zingaretti che ha detto che si candiderà, e si parla di una nuova progetto per la cultura a Roma con Max Gazzè. Ma sentiamo sempre Gazzè sul fatto che andare a votare, lo credono in molti, non serve a niente, tanto decide tutto Monti. Mi viene da pensare, forse la cosa migliore è votare quello che, la cosa più facile, non la cosa più comoda. Tanto non serve a niente. Decide Monti. Simpatizzo Grillo per quello che rappresenta, per quello che fa. Senz'altro è una persona che stimo. Forse ha più esperienza di tanti altri politici che arrivano adesso. Quindi possiamo dire che Grillo ne sa di politica, non è che non ne sa. Forse qualcuno che sa di politica come Grillo merita delle affezioni. E poi la domanda sul parteciperebbe, aderirebbe a un governo romano con Zingaretti, se qualora fosse chiamato da Zingaretti. Chissà se la domanda era pensata, organizzata, se dietro c'è qualche cosa, oppure se è proprio una cosa così, una butade. Sentiamo. Se Zingaretti alza il telefono, diventato sindaco di Roma, e dice Max, dobbiamo fare un'estate romana. Ci vado a parlare con Zingaretti, senz'altro. Chissà se Zingaretti, dopo aver sentito questa intervista, ci penserà due volte prima di chiamare Max Gazzè. Giudizi un po' così in libertà, la Trilateral Commission di Monti, non lo so. A me risulta che sia un ex membro di questa istituzione privata che insomma parla di finanza internazionale, ma si tirano ancora fuori questi argomenti. E invece dicevamo, Daniela Santanchè su Monti ieri sera in onda, insomma i suoi giudizi critici su questo governo li conosciamo, ma li ha ripetuti ieri dopo che Monti aveva parlato, siamo vicini alla fine della crisi, vedo la luce in fondo al tunnel, qualcosa del genere aveva detto Monti, non proprio così. Sentiamo cosa ne pensa invece un esponente, chissà quanto importante adesso nel PDL. Devo dire però che non mi sono piaciute queste parole di Monti quando si riferisce stavamo peggio un anno fa rispetto adesso, la crisi, cominciamo a vedere quella luce che io invece vedo soltanto un buio molto profondo. Perché poi la Santanchè, tutti la danno sempre vicinissima a Berlusconi, consigliera nei momenti più bui, è lì che lo sostiene, eccetera, però non si sa nel PDL esattamente che ruolo abbia, quanto conti davvero e quanto sia in sintonia con lo spirito di rinnovamento che viene almeno da una parte della base forse o dei giovani del PDL. Ancora la Santanchè, un governo, quello di Monti, che cade dal pero. Sono al governo, cioè hanno vinto la lotteria senza neanche comprare il biglietto, sono calati dal pero e su una truffa siedono al governo, su una farsa, perché tutto questo per il mio, la mia opinione, ma non sono l'unica all'interno del mio partito, non doveva succedere. Risentiamo però quella sul buio profondo, perché ne vale la pena, risentiamola. Devo dire però che non mi sono piaciute queste parole di Monti quando si riferisce stavamo peggio un anno fa rispetto adesso, la crisi, cominciamo a vedere quella luce che io invece vedo soltanto un buio molto profondo. Un buio molto profondo vede la Santanchè, ma come quando c'era Berlusconi al governo, quando c'era lei a fiancheggiarlo e Berlusconi diceva che la crisi non c'era, che i ristoranti erano pieni, insomma questa la sappiamo tutti, insomma basterebbe andare a riprendere le dichiarazioni di poco più di un anno fa, adesso invece la Santanchè vede solo buio profondo, ma tant'è. Lasciamo Max Gazzè e Daniela Santanchè su Monti e sentiamo Gianfranco Miccichè qualche giorno fa, perché la notizia è che non si candida Miccichè, c'è scritto sui giornali oggi, ieri ha lanciato la candidatura di Musumeci della destra, del partito di Storace, Nello Musumeci, e ha rinunciato a candidarsi. Noi l'avevamo intervistato qualche giorno fa quando c'era invece la sua candidatura per le regionali in Sicilia e gli avevamo chiesto, ma questa volta fa sul serio, perché già 4 anni fa aveva detto mi candido, poi venne fuori Lombardo e non si candidò. Questa volta che fa? Sì, oggi? È diverso, perché io oggi ho avuto un'investitura dal mio partito, dal partito di cui faccio parte, che è Grande Sud, con una grande manifestazione che c'è stata a Catania meno di un mese fa e che mi è stato chiesto di candidarmi e io ho accettato, per cui io sono candidato. Poi se qualcuno, quello che noi abbiamo fatto è quello di aprire a chi volesse appoggiare questa candidatura, se poi non l'appoggia il PDL, ma se si vuole avanti lo stesso. E invece Miccichè ha cambiato di nuovo idea, non si candida più e lascia spazio come candidatura a questo punto unitaria del suo partito e della destra di Storace, Nello Musumeci. E poi le previsioni di Miccichè per le elezioni sono: i berlusconiani arriveranno buoni terzi, prevedo che prenderemo fino al 35, non meno del 35% con questo candidato qua, che invece secondo me spiana la strada a Crocetta, perché a questo punto sembra sicuramente più facile che possa vincere, se non al primo turno, magari al ballottaggio. E Francesco Storace che dice: sarà un esperimento nazionale, poi costruiremo partiti localisti anche in altre regioni, ci prepariamo per le politiche. Loro aspettano il giudizio di Berlusconi su questo candidato Musumeci, un candidato di destra, non so se per il PDL sarà digeribile in Sicilia. Che facciamo? Andiamo avanti con gli spunti per questa sera, prima del traffico, e risentiamo Passera, il ministro Passera, che è andato ieri oltre quello che lo stesso Monti aveva detto sulla possibile fine della crisi, dicendo, insomma, dobbiamo trovare le risorse per diminuire le tasse. Un argomento super, super, super, super elettorale, quello del diminuire le tasse. A dire la verità non è che abbia detto molto Passera, anche se poi i giornali ci hanno fatto i titoli. Risentiamolo. E noi dobbiamo trovare più risorse per il welfare, dobbiamo trovare più risorse per ridurre la fiscalità ai cittadini e alle imprese oneste. Sceso dal palco, poi un giornalista gli ha chiesto, ma i tempi per questa riduzione delle tasse, per questo trovare le risorse, una frase che abbiamo sentito dire miliardi di volte, per ridurre le tasse, quali sono, e qui passa, dice: no, non mi posso sbilanciare. Tempi di diminuire questa zavorra delle tasse non si può sbilanciare. No, perché prima bisogna avere le risorse per farle e mai mettere a rischio i conti pubblici. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Tra pochissimo adesso il traffico. La Zanzara. Al 349-238-6666 un ascoltatore, Marco da Roma, ci invita a parlare della vicenda dell'IMU per i terremotati dell'Emilia Romagna, perché è stata respinta, ci ricorda la richiesta di Errani, presidente della regione, per la sospensione dell'IMU per i terremotati. C'è una vicenda aperta su questo, è vero, è una questione un po' che brucia un po', no? Perché come ha detto Errani, sostenuto anche dal PDL locale, insomma, in una questione che sfonda una porta aperta, però con un comunicato dell'Agenzia delle Entrate gli emiliano-romagnoli si sono sentiti dire che non c'è spazio per una sospensione che c'era stata fino adesso delle questioni delle pendenze fiscali, quindi anche chi ha la casa terremotata dovrà pagare l'IMU, e in effetti è un po' dura da mandar giù. Va bene, 349-238-6666 824 0024 per intervenire in diretta. Prima salutiamo il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, buonasera. Buonasera, salve. Con grande piacere l'abbiamo qua, qualche Grazie. Giorno che lo cercavamo, però insomma un po' di pausa per le vacanze estive è normale, se no bisogna riposarsi anche. De Magistris. Magari si potessero fare le vacanze da sindaco. C'è sempre da lavorare da sindaco. Per esempio, c'è questa... Anche quando qualche giorno si va fuori fisicamente dalla città per pochi giorni, ma una città come Napoli non puoi staccare mai. Ma credo ovunque. Per esempio c'è questa questione, partiamo subito dalla stretta attualità. La vicenda di Don Merola e della sua associazione, si sono visti recapitare anche loro una questione fiscale, la Tarsu, 10.000 euro per una villa confiscata alla mafia qualche anno fa, alla Camorra, nella quale loro... con l'associazione, la fondazione A Voce dei Creature fanno delle cose per i bambini, e l'ha tirata in ballo dicendo il sindaco ci ha lasciati soli. Lei in realtà ha già replicato dicendo: ma come, noi con Don Merola abbiamo parlato, era tutto a posto, stiamo studiando una legge. De Magistris. No, ma la polemica di Don Merola onestamente non si comprende, se non forse per il fatto che gli poi in campagna elettorale è stato un sostenitore del mio antagonista Lettieri. In realtà il tema noi l'abbiamo affrontato. La legge non prevede l'esonero per alcune categorie della tassa dei rifiuti. Noi però abbiamo predisposto una forma di regolamento che ovviamente non vale solo per Don Merola, perché non possiamo fare figli e figliastri, ma per tutti quelli che hanno beni confiscati, che praticamente diamo un rimborso che equivale alla somma della TARSU che loro dovrebbero pagare. Questo scatterà, lo approveremo a settembre, varrà già dal 1 gennaio 2012 e ovviamente per tutti gli anni a seguire. Per il pregresso ovviamente questi provvedimenti non possono essere retroattivi, non so se Merola l'abbia proposto nel passato alle precedenti amministrazioni, questo non mi riguarda. Diciamo anche però che c'è un'attenzione forte per tutte le cooperative che gestiscono i beni confiscati, che hanno già tutta una serie di esenzioni importanti, e noi per il futuro ci stiamo indirizzando soprattutto a favorire i giovani, in modo da dare loro delle opportunità anche di fare economia dal basso. Quindi è una questione chiusa, lei assicura che arriveranno i rimborsi e non se ne parla più. Un'altra questione, perché sempre in una intervista, credo di ieri, citato sempre da Don Merola, ma non per restare sullo stesso argomento, dice il comune si occupa più delle... com'è che dice di creare oasi per le lucciole napoletane, l'accusa di questo, no? Cioè mette sullo stesso piano due cose che non c'entrano nulla, a dire la verità, però la proposta è arrivata quest'estate da parte sua di creare, è una di quelle cose che fa sempre discutere, no, De Magistris, perché c'è chi è favorevole, la maggior parte forse, o almeno la morale vorrebbe che si fosse contrari, io personalmente sarei anche favorevole, zone a luci rosse a Napoli, però non ho capito, è una proposta o un progetto? Ma guardi, assolutamente mi sembra, lei l'ha posta molto bene la domanda, sono quei temi dove secondo me è corretto che un sindaco ponga il problema sul tappeto, quindi non è, come dire, una cosa che dici noi abbiamo fatto così, abbiamo deciso così e dopo apriamo il dibattito, è un tema. Allora, noi registriamo nella nostra città, per fortuna con dati molto inferiori rispetto ad altre città italiane, un incremento della prostituzione. A me per esempio preoccupa moltissimo un aumento che vedo in diverse parti del nostro paese della prostituzione minorile, della prostituzione maschile e quant'altro. Di fronte a questo noi dobbiamo partire da alcuni dati di fatto. La prostituzione in quanto tale non è vietata dalla legge, è vietato lo sfruttamento della prostituzione, e quindi le forze dell'ordine, la magistratura, chiunque può contribuire, deve contrastare con molta efficacia lo sfruttamento delle donne, dei minori, delle prostitute, molte che vengono dall'estero. Nelle città come lo vogliamo affrontare il problema? In alcuni grandi città internazionali, devo dire anche in qualche posto del nostro paese, si è sperimentata la cosiddetta zoning, cioè delle aree in cui non è che viene legalizzata la prostituzione, ma viene tenuta sotto controllo, quindi c'è un controllo sociosanitario, un controllo delle politiche sociali, un controllo delle forze dell'ordine, in modo da individuare subito gli sfruttatori e tenere sotto controllo un fenomeno. Quindi non si tratterebbe di zone, tra virgolette, free sex, quartiere a luci rosse, assolutamente, è una zona che anzi viene monitorata, viene controllata, e poi dobbiamo tenere presente, questo è un dato, che c'è una domanda e c'è un'offerta. Io non sono dell'idea che la prostituzione si sconfigge col manganello e con la criminalizzazione delle prostitute o dei clienti, quindi bisogna incidere, aprire un dibattito in quella direzione. Io, nell'ambito di alcune domande che mi sono state fatte da un suo collega, ho posto la questione, anche perché secondo me, ripeto, il tema va affrontato laicamente. Quindi, diciamo, per sintetizzare, qualcuno ha usato l'espressione, non so se lei o i giornalisti, zone cuscinetto, lei dice controllo sociosanitario, e quindi anche una forma di controllo della prostituzione, però quindi è qualcosa di diverso rispetto a quello che accade ad Amsterdam o in altre città dove ci sono quartieri dove la prostituzione è a pagamento, è tollerata, è visibile ed è confinata in quelle zone particolari. Si tratta di qualcosa di diverso, più o meno, diciamo, è di diverso, ma anche in qualche modo simile, nel senso deve essere individuata un'area. In quell'area si sa che in qualche modo è praticata la prostituzione, ovviamente con l'obiettivo che la prostituzione tenda a essere eliminata, perché io personalmente sono contrario al fatto che una persona debba vendere il proprio corpo. È questo forse che lo rende diverso rispetto a quello che accade in altre città. Io cito il caso di Amsterdam, dove questa spinta, diciamo, al controllo e alla diminuzione, o come dire, a far tendere a zero il fenomeno della prostituzione, non si vede, cioè è semplicemente confinata lì, ognuno fa quel che vuole nel rispetto di norme igienico-sanitarie, naturalmente. Allora, guardi, tengo presente questo, che al di là di quello che può volere o pensare il sindaco di Napoli, qualsiasi cittadino, oggi diversi quartieri, diverse aree, diverse strade, le nostre città sono invase di prostitute, di transessuali che vendono il proprio corpo, molti minorenni, molti stranieri. Questo crea un aumentare della criminalità organizzata, una crescente intolleranza anche nei confronti delle prostitute e dei cittadini, la incapacità da parte delle politiche sociali, delle forze dell'ordine di controllare. Se noi creiamo un'area, noi riusciamo a ridurre enormemente innanzitutto la presenza della criminalità organizzata, perché quell'area poi viene monitorata anche dalle forze dell'ordine. Poi è chiaro che bisogna incidere e cercare di eliminare il fenomeno della prostituzione. Altra cosa invece diversa, che anche ho posto in quell'intervista, mentre su questa io ho una posizione molto aperta, nel senso che la mia idea è quella che si potrebbe sperimentare, lo troverei un fatto positivo di una grande città internazionale, eccetera. Poi c'è una seconda che a me personalmente convince ancora di più, e che vedo che nella nostra città c'è per esempio un'assenza di luoghi dove i ragazzi, per esempio, possono andare anche per stare un po' appartati. Non so se lei conosce Napoli, molte coppiette si mettono in una zona che si chiama il Parco Virgiliano, mettono poi i giornali o le asciugamani per non farsi vedere, oppure peggio ancora, vanno in alcune zone fuori città dove quotidianamente accadono stupri, aggressioni e rapine, questo soprattutto fuori dalla nostra città. Quindi io penso che sia utile che una grande città, in questo stiamo lavorando già con alcune municipalità, il progetto è molto avanzato, si creano delle aree dove le coppie, soprattutto giovani, possono andare a stare in compagnia, stare appartati, magari vedere un film all'aperto, magari avere anche poter comprare qualcosa da mangiare. Che cosa non è molto diretta. Non è molto poetico l'idea di andare in zone delimitate dove appartarsi, però una è la prostituzione e l'altra ma al di là di quello, insomma, l'idea di avere delle zone delimitate dove si può andare ad appartarsi, non tutti si possono permettere di avere una casa oggi come oggi, oppure magari avere possibilità di andare in alberghi, eccetera. Certo. Non vedo perché una coppia di ragazzi di 18 anni non possa avere un luogo sicuro, che non è un ghetto, ma anzi un luogo molto accogliente in cui poter stare tranquillo. Insomma, io credo che sono quelle cose di cui si discute l'estate, ma è opportuno che... Poi ho visto con piacere che il dibattito sia aperto. Ecco, ma arriverà, arriverà sull'altro tema, quello della prostituzione, una proposta, un progetto anche del comune, suo in particolare, oppure siamo per ora solo a livello del dibattito? No, guardi, le dico con molta sincerità, sì. Prima di fare questa... Prima di rispondere a questa domanda, all'intervista di Ferragosto di un quotidiano nazionale, noi abbiamo fatto diversi tavoli, innanzitutto con le strutture del comune, ma con molte associazioni laiche, religiose, anche cattoliche, con esponenti della prefettura, anche delle forze dell'ordine. Come puoi immaginare, le opinioni sono diverse, ad esempio la posizione tendenzialmente di un certo mondo cattolico è piuttosto contraria, però devo dire che in questi tavoli che abbiamo avuto la maggioranza delle persone si sono espresse in modo favorevole per creare proprio un progetto concreto, cioè individuare un'area e fare più o meno in estrema sintesi quello che ci siamo detti, ovviamente in sintesi, perché noi stiamo lavorando anche a un progetto articolato. Io ho voluto, perché mi sembra corretto, aprire un dibattito pubblico, lo faremo anche in consiglio comunale e poi all'esito dei contributi di tutti decideremo se trasformare questa idea in un progetto concreto, come io credo possa essere utile anche solo per sperimentare, perché ripeto, il tema a Roma, a Milano, a Napoli, in tutte le altre città, è che c'è un fenomeno crescente, sì, di aumento della... Questo l'ha detto. E avete anche in mente quale potrebbe essere, diciamo, una o più zone dove questo progetto potrebbe essere sperimentato? Non siamo ancora entrati, ma sicuramente questo non avverrà, diciamo, in zone abitate, insomma, quindi questo avverrà sicuramente in aree dove non ci sono residenze private, non ci sono esercizi pubblici, insomma sarebbe un'area molto... Ah, quindi un'area scollegata, per esempio, che ne so, da bar, ristoranti o locali, un'area, insomma. Un'area scollegata sicuramente. Senta, poi parliamo anche di politica nazionale, perché insomma lei tra gli animatori, almeno così scrivono i giornali, poi c'è stata anche qualche parola sua della cosiddetta lista dei sindaci, o quantomeno un intervento dell'area dei sindaci, dei Magistris, Pisapia, Emiliano, eccetera, in vista delle politiche, tra qualche mese non manca moltissimo. Però prima di questo le vorrei chiedere, lei ha appena firmato la petizione in favore dei PM di Milano, di Palermo, in questa vicenda annosa che vede sulla questione della trattativa Stato-mafia, non solo, insomma, ma questo scontro anche tra il capo dello Stato e una parte della magistratura palermitana. Che senso ha questa sua adesione? Ma è la mia storia, guardi, io sono stato magistrato per 15 anni, ho vissuto sulla mia pelle anche fatti molto simili e per certi versi con conseguenze anche ancora più gravi a quelli che subiscono anche altri colleghi che si trovano a fare indagini molto delicate e che si imbattono contro le deviazioni di Stato. Insomma, la mia firma, insomma, la davo quasi per scontato, infatti insomma non è quello, non è mai stata posta in discussione, del resto firmai pure... sono stato anche a Palermo il 19 luglio, sono stato negli anni passati. Io credo che il nostro paese, almeno la stragrande maggioranza degli italiani, ma non solo degli italiani, vogliono sapere che è accaduto tra il 91, 92, 93, perché sono morti Falcone e Borsellino, gli uomini e le donne e le loro scorte, perché sono state messe le bombe, perché la mafia ha voluto piegare lo Stato, la trattativa... Fino a poco tempo fa eravamo in pochi che diciamo che c'è stata una trattativa, sì. Ma l'hanno tutti per scontato che c'è stata la trattativa. Allora non si può che firmare in favore dei magistrati che stanno cercando la verità. Io penso che debbano firmare tutti gli italiani, francamente. E Napolitano vuol coprire, vuole insabbiare. Lei condivide alcuni dei toni, guarda, usati per esempio da Di Pietro anche recentemente? Io preferisco in questa materia, che è materia molto delicata, agire per fatti concreti. Il fatto concreto è quello che un sindaco, un uomo delle istituzioni, un uomo politico, un uomo che è stato magistrato, un uomo che ha pagato per mano anche il mancino, esprima con una firma il proprio pensiero. A me le polemiche non mi interessano, poi ognuno si decide nella vita come esprimersi, che cosa fare, come schierarsi, se schierarsi a giorni alterni, se fare della propria vita un qualcosa di coerente. Io ho trovato assolutamente, ecco, naturale, non ho avuto proprio nessun dubbio a schierarmi dalla parte dei magistrati di Palermo, ma non dei magistrati, attenzione, in generale, io non appartengo a quella categoria, i magistrati sono tutti buoni e i politici sono tutti cattivi, io mi schiero con Ingroia, con Di Matteo, con quei magistrati, con Scarpinato, con la procura di Palermo, poi ci sono anche ben altri magistrati con i quali non mi schiererei mai, anzi. Va bene, fermiamoci un attimo per le informazioni dai mercati finanziari, poi torniamo con il sindaco di Napoli, De Magistris. La Zanzara. Ben ritrovati in diretta 824 0024, tra poco con i vostri interventi. Prima però la domanda, per chiudere questa intervista a De Magistris non potevamo non farla, non le chiedo se si farà o non si farà la lista dei sindaci o lista civica in appoggio al centro-sinistra, perché sarebbe come prevedere il futuro, però ci state lavorando o non ci state lavorando a questa lista De Magistris? La ringrazio questa domanda, perché chiarisco per l'ennesima volta, perché vedo un qualche putiferio, mio sì. Sindaco, certe volte chi non vuol sentire veramente o fa finta di non capire diventa veramente, poi uno lo deve dire in inglese, lo deve dire in tedesco o in qualche altra lingua. Non è all'ordine del giorno una lista con sindaci candidati, perché noi vogliamo fare i sindaci. Sì, vabbè, in effetti questo l'avevate detto. No, però continua, leggo anche alcuni giornali autorevoli, settimanali, sì. Continuano a parlare di lista. Allora, invece diversa è l'ipotesi che i sindaci siano, e questo lo saremo, protagonisti di questa campagna elettorale, in varie forme. Ecco, quindi questa è la questione. Con dei contenuti programmatici, un manifesto per il governo del prossimo Parlamento, sicuramente... Per quanto mi riguarda lo faremo anche con un movimento politico organizzato, che quindi sia qualcosa di distante dai partiti, seppur non in conflitto con i partiti. Poi c'è l'ipotesi su una lista civica dove stiamo lavorando alcuni dei sindaci, e questo però non è scontato, dipende anche un po' dalla legge elettorale, perché la lista civica oggi potrebbe essere un modo strumentalmente decisivo per vincere le elezioni. Sicuramente i sindaci, io credo, saranno i veri, alcuni dei protagonisti della prossima campagna elettorale, perché noi conosciamo bene le dinamiche sociali, il conflitto sociale, le problematiche, credo che siamo molti di noi, al di là delle appartenenze politiche, una risorsa democratica, perché ogni giorno affrontiamo questi problemi, quindi ci saremo. Il nostro quindi un movimento, lei ha usato l'espressione movimento politico, e una possibile lista civica, questo sarebbe un passo successivo, che vedrebbe candidati non i sindaci, ripetiamolo, ma altri esponenti, esatto, della società civile, esatto. lo deciderete voi. È vero che il suo neo assessore Enrico Panini, che viene dalla CGIL, starebbe lavorando anche all'organizzazione di questa cosa? Allora, tutta la giunta è schierata nella creazione e nella formazione di questo movimento. A breve uscirà un manifesto sul quale sto lavorando io insieme agli altri assessori e anche altri amici che stanno in altre parti del paese. Quindi il movimento ci sarà anche Panini, ci saranno anche altri, il movimento oggi può essere utile, secondo me, al Paese. E poi ripeto, noi sindaci in questo momento vogliamo anche essere rispettati, insomma il governo sta facendo tagli mostruosi, quindi non è scontato che i sindaci appoggino necessariamente questo o quell'altro schieramento, cioè non vuol dire che perché uno sta nel centro-sinistro, nel centro-destra, dà per scontato il voto. Se la proposta politica sarà la melassa vista in questi mesi, io vedo che molti sindaci si schiereranno per qualcosa di diverso. Pisapia, per esempio, sta lavorando, cioè siete in sintonia su questo? Ma guardi, noi ci incontriamo spesso e devo dire le analisi che facciamo con Pisapia, con Zedda, con Emiliano, con Orlando, ma anche con Del Rio, che è il presidente dell'ANCE ed è un esponente del PD, veramente è molto simile. Quindi noi siamo tutti, come dire, convinti del fatto che così come vanno le cose nel paese non si va da nessuna parte, che c'è poco rispetto per le autonomie locali, per i comuni, per i temi della povertà delle persone, per una forte disuguaglianza che c'è nel paese. Allora io credo che oggi è intelligente in politica, deve cogliere questa risorsa dei sindaci, questa rete dei sindaci, questo movimentismo dei sindaci è utile al paese, ma non in modo strumentale, per stare vicino alle persone. Noi ci siamo. Ci sarà di mezzo anche il colore arancione? Sarà un riferimento simbolico? Sì, io in questo momento ce l'ho nel mio polso. Il colore arancione è un colore che ha unito alcuni sindaci in una campagna elettorale importante di un anno fa, è un colore che ha assunto una valenza politica e resterà. Nella politica anche i simboli hanno il loro valore, oltre che i contenuti. Quindi ci sarà il colore arancione nel simbolo. E quando arriverà la presentazione? A settembre? Guardi, io credo a settembre, sì. A settembre il manifesto, il nome, alcune firme importanti, e poi credo a ottobre faremo un'iniziativa importante nel paese, vediamo se farla a Napoli o un'altra parte. Una manifestazione? Sì, credo un evento pubblico dove discuteremo il nostro manifesto, che non è solo un manifesto, anzi non è un manifesto di alleanze politiche, è tutto un manifesto di contenuti. Ad esempio, noi siamo convinti, lo dico in estrema sintesi, che così come è fallito il socialismo reale, sta fallendo il capitalismo. Allora proviamo dalle comunità, proviamo dal basso, ad esempio, a costruire non solo alternative politiche, ma anche alternative economiche. In questo il laboratorio Napoli, per esempio, è abbastanza interessante e cercheremo di raccontarlo nel paese. Va bene, staremo a vedere. Grazie, grazie. Buona serata. Buona giornata a voi e agli ascoltatori. Grazie. Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Allora, delle novità ci saranno a settembre su questo fronte. Abbiamo chiarito anche i contorni di questa cosa, della lista civica, movimento politico, non lista dei sindaci. 800 24 00 24. Paolo ci chiama da Macerata. Buonasera. Buonasera. Mi hanno colpito le parole di Max Gazzè che abbiamo ascoltato questa sera. Io penso che, non avendo molta simpatia per il Presidente del Consiglio Monti, definirlo cecchino, se non ho capito male, pensi Max Gazzè a fare della buona musica, a farci divertire, perché Monti si è trovato con enormi difficoltà e qualcosa di buono secondo me l'ha fatto, poteva far meglio, ma questa critica con questo termine alquanto brutto non mi piace e penso che Gazzè faccia meglio a fare della buona musica e a rallegrarci gli animi, tutto qua. Grazie Paolo, grazie. Accade spesso quando gli artisti vengono portati su altri terreni che poi facciano dichiarazioni così, che peraltro una parte degli italiani sicuramente condividerebbero, perché abbiamo volutamente messo insieme Max Gazzè e Daniela Santanchè, due sicuramente provenienze politiche diverse, ma ragionamenti su Monti molto simili. Luigi da Catania, buonasera. Buonasera, io... Parola fatta anche, mi ricordo sempre che guadagno tra i 15 e i 20 mila euro al mese, tanto per capire cosa possono capire gli italiani. In questo senso, mi sentite? Non benissimo, a dire la verità, Luigi, non benissimo. Ora mi sente? Mi sente? Sì, e proviamo, prego. Dico, vorrei, si parla sempre male degli statali, no? Io vorrei ricordare che i vigili del fuoco che spengono gli incendi sono statali. I medici sono statali, i professori sono statali, gli infermieri... Una marea di gente che serve la popolazione, per qualche migliaio di persone, magari in alcuni uffici che fanno poco, si parla male di milioni di persone che rendono questo paese ancora vivibile. A tal proposito vorrei dire, per la mia esperienza, brevissimamente, io sono un fisico che lavora in un'azienda ospedaliera, ho 60 anni da qualche giorno. Tra il governo Monti e il governo Berlusconi l'ultimo, io ho subito quanto segue. Nel giro di una serata posso andare in pensione prima a 60 ora a 67. Il mio contratto di lavoro è scaduto da 7-8 anni e sarà rinnovato nel 2016. Le promozioni sono bloccate. Le cose sono sempre in mano alle stesse persone, per cui anche le promozioni, si figura in Sicilia, dipendono soltanto dai meriti politici. Ho lavorato 7 anni lo stesso lavoro di fisico medico. Però non ci faccia la storia, Luigi, non ci faccia la storia della sua vita, perché magari è interessantissima, però per carità. Sì. Ora vogliono non so quanti milioni di centinaia di euro per unificare le pensioni di uno stesso lavoro. Allora, voglio dire, quando parlate dei massimi sistemi, è molto bello, sì, ma la gente ha questi problemi. Io le posso dire che tanta gente del PD che conosco non voterà PD per questo, perché tutto quello che le ho detto lo ha appoggiato il PD, ma voterà più a sinistra, perché siamo stanchi dei massimi sistemi. Al sud i genitori siamo gli ammortizzatori sociali dei nostri figli disoccupati. Questo l'hanno mai pensato, una volta la sinistra questo lo pensava, no? Va bene, allora, grazie Luigi, grazie. Sì. A tutto questo? Quando lei parla di politica, mi scusi. Ma io non rispondo, cosa vuole che risponda? Io non rispondo niente. Lei ha messo giù delle argomentazioni e grazie, io per questo non posso che felicitarmi con lei e vedere se gli ascoltatori, sentire se qualcuno è d'accordo o in disaccordo. Marco da Trento, buonasera, 800 24 00 24, prego. Buonasera, se va di no per saperci. Buonasera, volevo dire, intanto sono stato un po' sviato perché ho seguito tutto, come sempre molto interessante. Riguardo a Monti, se mi permette, sì è vero, stiamo vedendo la luce del neo però, un po' artificiale. Siamo nel palco l'autista, no? Sì. Girano, così si chiacchiera, sai com'è, si chiacchiera, parlo di chiacchiere da bar, quindi ai livelli io non sono acculturato. però si diceva che il problema in Italia, cioè si dice che il problema in Italia generalmente è che il costo di questo paese è troppo elevato, no? Troppe istituzioni, troppe, cioè veramente mantenere lo Stato in piedi è esagerato. Poi parlare di furbi è facile dopo, no? Però secondo me non sono evasori, perché io ho avuto anche da lavorare con evasori, tra virgolette, però sono sopravvissuti, non evasori, sono quasi eroi, perché quando ti ritrovi a lavorare tanto e fare fatica a tenere in piedi un'azienda e poi quello che guadagni glielo dai a persone che lo gestiscono malissimo e che li buttano via e che si pagano pensioni da fuori, adesso io non voglio entrare in merito, però sono tantissime le spese assurde che abbiamo in Italia, ma paurose, uno va a informarsi bene, veramente ti girano le scatole, come si dice, no? E la soluzione che sento parlare molto spesso, che non mi sembra stupida, di persone come me, quindi parlo di persone che non hanno il livello culturale di quelli che governano, che però mi sembrano sempre più idioti, scusi il termine, mi prendo la mia responsabilità, perché pagare le tasse direttamente ai comuni e fare in modo che i soldi non partano più da me e arrivino direttamente a Roma e poi Roma li distribuisca, ma fare il contrario, cioè una piramide che parta dal basso e arriva verso l'alto e non che parta dall'alto, cioè noi abbiamo una piramide rovesciata, capito? Il nostro sistema è rovescio, funziona al contrario, quindi non può funzionare un sistema così, i soldi devono partire dal basso in modo che quando arrivano alla punta arriva quello che serve, e alla punta non serve che ci siano 6.500 non so quante persone che governino un paese in modo che poi nessuno ha mai responsabilità, ci vogliono grazie pochi. Marco, stasera siamo partiti incavolati duri con gli ascoltatori, proprio tre telefonate, bam bam bam, subito ben a martello, 824 0024 ancora tra poco per intervenire in diretta. Salutiamo Michele Iorio, presidente della regione Molise. Non so se questa tarantella abbia qualcosa a che fare con la sua regione dal punto di vista musicale. Riconosce qualcosa? Sì, è vicino alla Campania il Molise. Quindi insomma diciamo che quasi. Culturalmente ci siamo. Abbiamo azzeccato il tappeto musicale. L'avevamo usato qualche sera fa parlando della questione dei vitalizi, perché insomma c'era una notizia che ci aveva un po' rincuorati, cioè il taglio del 25% dei vitalizi agli ex consiglieri della regione Molise, e poi c'è stato un dietro front, adesso poi lei ci spiegherà anche il perché di questo dietro front, di questa legge che cambia sulla questione dei vitalizi e come cambia anche il vitalizio, perché quello sì per legge dovrà sparire a partire dalle prossime legislature. Però Iorio, non so se vuole partire da questo, dalla questione dei derivati, perché anche questo è un bel capitolo. Allora partiamo da dove vuole partire? Dai derivati? Parto dai vitalizi. Partiamo dai vitalizi. Allora, la notizia penso... ad invertire l'informazione intanto. Cioè che la Regione Molise è l'unica regione in Italia che ha eliminato i vitalizi per il futuro. Già ora gli attuali consiglieri regionali non percepiranno più il vitalizio. Cioè, non parliamo di quelli della prossima legislatura, ma già di questa legislatura. No. E a me sembra che questa sia una notizia abbastanza apprezzabile. E questo in effetti va dato atto, perché in altre regioni, quasi tutte, a dire la verità, che io sappia, si parte dalla prossima. Invece voi già da questo consiglio, da questa tornata, che tra l'altro poi... L'abbiamo già eliminato da questa tornata elettorale, quindi non esistono più ad oggi, con la stessa norma del famoso 25%, sono stati eliminati per il futuro. Il 25% è stato ripristinato perché si è ritenuto dal punto di vista anche giuridico che non si potesse intervenire su diritti maturati, diritti pensionistici maturati, per quanto siano vitalizi, comunque essendo è un sistema premiante sicuramente, ma è sempre un sistema pensionistico. Ma è una valutazione che avete fatto voi, Iorio, oppure... Abbiamo fatto noi su richiesta naturalmente delle organizzazioni, degli ex consiglieri regionali che si sono visti... L'associazione, decurtata una cifra e che hanno reagito dicendo che avrebbero instaurato un contenzioso sicuramente... A questo punto, per le consulenze che ho potuto ricevere, ci avrebbe visto perdenti, per cui abbiamo eliminato questo dato sul passato. Però ecco, ci tengo ancora una volta a dire che la mia regione è intervenuta già tre volte sulle indennità, riducendole del 30% rispetto a prima negli ultimi 3 anni, e ha avuto il coraggio di eliminare questi vitalizi che era giusto eliminare per quanto riguarda il futuro. Diciamo che avete fatto 30, stavate per fare 31, si stava tutti per festeggiare, e invece poi siamo tornati a 30. Vabbè, il fatto della legislatura in corso, questo bisogna dare atto al Molise, perché adesso io non ero informato, non sono informato su questo, non sono in grado tra l'altro di contraddirla, però so per certo che in molte altre regioni invece il taglio è stato fatto a partire dalla prossima, quindi qualche risparmio in più. Ci sarà. Facciamo una pausa per il traffico, Iori, poi affrontiamo anche la questione dei derivati, però, perché anche qua 300 milioni di euro per una regione come il Molise. Lei da quanti anni è presidente della regione? Sono 10 anni. 10 anni, quindi qualcosa ci dovrà dire su questo, perché è un bel affare. Però prima certo. Il traffico. La Zanzara. Di nuovo in compagnia di Michele Iorio, presidente della Regione Molise, abbiamo affrontato la questione vitalizia, abbiamo chiarito. C'è la questione di oggi sul giornale, Sergio Rizzo sul Corriere, ancora una volta un articolo di Rizzo su questo aspetto dei soldi legati alla politica. In questo caso si parla di 300 milioni di euro in derivati messi in piedi dalla Regione Molise, e per uscire da questi strumenti finanziari adesso avreste incaricato un consulente esterno. Al di là della cifra, che a me pare anche ridicola, 20.000 euro, perché per una questione che ne vale 300 milioni sicuramente è giusto spendere e capire, ma la domanda è questa: se per uscire dai derivati ci vuole un dirigente esterno, un consulente esterno, per entrarci nella questione dei derivati, come avete fatto a fare una valutazione diciamo che era la giusta strada per la regione, se non avevate le risorse interne per capire il know-how, come si dice, perché questi strumenti finanziari sono pazzeschi? Ma guardi, noi abbiamo fatto un intervento di circa 260 milioni complessivo, di cui circa 70 erano vecchi mutui dove si pagavano interessi altissimi che superavano il 10%, e quindi era conveniente per la regione fare delle emissioni obbligazionarie a interessi molto ma molto più bassi rispetto a quelli che si pagavano. Gli investimenti che sono stati fatti in infrastrutture erano altrettanto necessari, e l'abbiamo fatto seguendo tutte le regole che consentivano all'epoca l'emissione di buoni obbligazionari per creare investimenti. L'abbiamo fatto dopo aver superato il giudizio positivo del Ministero dell'Economia, delle varie direzioni generali, che ci hanno quindi autorizzati a fare queste emissioni, e adesso stiamo... Però non è andata bene, evidentemente, se no non è... No, è andata benissimo, guarda, il Molise non ha avuto nessun problema sulle emissioni, come è successo a Milano, come è successo altrove. Però è vero che volete tornare indietro oppure no? Oppure è falsa questa notizia? No, perciò io dico, a volte c'è da chiarire le cose, perché Rizzo molto spesso riporta delle notizie che gli provengono da un nostro noto oppositore, e quindi non ha tutti gli elementi di giudizio necessari per esprimere poi una valutazione più obiettiva. Beh, scusi, l'opposizione serve anche a questo, Iorio, serve anche a questo l'opposizione, no? A tenere sotto controllo il governo. Se sente una sola campana, si rischia di scrivere una cosa facendo da portavoce a uno che ha sicuramente un interesse specifico. Comunque, al di là di questo, le dico che la questione del consulente attuale non serve perché dubitiamo della validità dell'intervento. Noi siamo tranquilli e sicuri, le nostre missioni sono coperte regolarmente, non corriamo nessun rischio al momento. Il problema è che c'è la possibilità che in passati un certo numero di anni, adesso non so se sono 6, 7, quanti sono, Se non lo sa lei, io mi arrendo. Se non lo sa lei, quanti sono questi anni? Sì. Abbiamo posto, mi sente? La sento, Iorio, le sto dicendo che se non lo sa lei quanti sono gli anni per cui scatta questa cosa, era solo una precisazione. Saranno 6 o 7 anni, insomma, questo non è importante dal punto di vista di quello che sto dicendo. È necessario, abbiamo ritenuto fosse necessario nominare un tecnico esterno obbligatoriamente previsto dalla normativa di legge, che possa certificare la esattezza del calcolo degli interessi da parte dei vari istituti bancari, solo per misura precauzionale. Cioè per verificare che i nostri, posso sintetizzare che brutalmente, che non vi stiano fregando insomma le banche. Esatto, che non ci stiano fregando non sulla bontà dell'emissione, attenzione, non ci stiano fregando per esempio sulla quantità di interessi. Allora, siccome c'è bisogno di una valutazione tecnica, siamo ricorsi a un esterno perché lo dice la norma. Non possiamo noi autonomamente, pur avendo personale capace, di dimostrare le nostre ragioni. C'è bisogno di uno che abbia la possibilità di certificare, che quindi sia un certificatore di questi dati, che possegga tutti i dati necessari e poi farci conoscere la situazione per vedere di intervenire eventualmente ce ne fosse bisogno. Quindi non è vero che non avete le competenze interne per farlo, lo prevede la norma, voi vi siete affidati al consulente esterno perché... No, competenze esterne, ma non possiamo essere noi da soli a certificarci la situazione che dovrebbe essere alla base di una nostra poi successiva iniziativa, cioè ci vuole qualcuno che dall'esterno certifichi. Dopodiché noi, se rileviamo delle anomalie, abbiamo la possibilità, sulla base di questa certificazione, di richiedere le nostre ragioni. Ma ci auguriamo che questo non avvenga. Non certo, è un meccanismo, dire la verità, un po' contorto, Iorio, perché io appunto non ho elementi per dire che non sia così. No, cioè, guardi, un consulente esterno. Non è contorto. Io mi faccia finire, però, scusi, Iorio. Farlo da solo. Sì, lei mi garantisce, io però le dico quello che penso da cittadino. Certo, perché comunque si tratta di farsi dare un giudizio su questi interessi, su l'affidabilità o la tenuta di questi derivati da un consulente esterno. Se poi questo sbaglia o non fa gli interessi del comune, poi della regione, in questo caso, poi sono problemi vostri, perché. Cosa gli andate a dire al consulente? Comunque, se mi dice che la legge... Non è il consulente, il consulente, questo è un certificatore, cioè non crediamo nemmeno più ai certificati delle operazioni finanziarie, insomma non so quali altri strumenti... Però se il problema è proprio di verificare che gli interessi siano giusti, evidentemente c'è un margine di dubbio, no? C'è un problema, saranno technicality finanziarie, però ci passano milioni di euro. È venuto pubblici. Il margine di dubbio da quello che è accaduto un po' nel resto del paese, devo dire. Noi siamo stati molto prudenti rispetto al resto del paese, per cui non abbiamo avuto problemi di attentività. Beh, però qualcuno, anzi, sempre l'articolo di Rizzo dice che 300 milioni di euro per una regione come la vostra sarebbe come 10 miliardi di euro per la Lombardia. Sono tanti di derivati. Sono tanti, erano quelli necessari, lo ripeto, per fare degli investimenti che hanno poi reso in termini anche di sviluppo e di crescita, insomma io non vedo, non credo che ci sia. Comunque l'importante grande... è che lei ci dica stasera che per i derivati della regione Molise voi siete tranquilli, non siete lì per disfarvene, insomma non volete liberarvene perché temete di aver investito male. Quindi... Assolutamente no, anzi abbiamo fatto, viste le polemiche di questo periodo, nemmeno tanto questo, di qualche mese fa, ci siamo accertati anche sulle norme di garanzia che abbiamo messo nell'emissione di queste obbligazioni, siamo assolutamente garantiti e coperti, non c'è stato nessun problema, c'è però da fare questa verifica e l'abbiamo fatta. Questa comunque è una buona notizia. Io la ringrazio, Michele Iorio. Buona serata. Ringrazio io lei. Buona serata anche a lei. Presidente del Molise, avete sentito? Insomma, la notizia era questa. Ci sono questi derivati, 300 milioni. Adesso però il super consulente in realtà è solo una certificazione, ha detto Iorio, per verificare gli interessi. Però i cittadini molisani possono dormire sogni tranquilli perché i derivati non sono andati fuori strada, perché sapete che invece altrove è successo, succede, sono strumenti finanziari complessi e si rischia di non dormire sonni tranquilli perché sono soldi pubblici. Abbiamo il tempo per fare una telefonata? Forse ni. Allora facciamo così, 800 24 00 24, restate in linea, facciamo il giornale radio, le informazioni, il notiziario e poi torniamo tra pochissimo con i vostri interventi, ascoltatori. La Zanzara. Thank you. 19:15 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, 800 24 00 24 per intervenire in diretta tra pochissimo. Messaggi al 349 238 6666 intanto sulla vicenda derivati in Molise, messaggi preoccupati degli ascoltatori, inaudito i regioni con i derivati. Aria fritta, c'è chi dice una follia le certificazioni di bilancio, insomma non è che l'intervista di Iorio abbia tranquillizzato molto, neanche sul fronte dei vitalizi a dire la verità. Dicevamo tutti contro Monti, proprio mentre l'Italia e Monti in particolare incassano il giudizio positivo di un alto membro di Fitch, nonché il parere di Moody's che dice Italia e Spagna già nel 2013 saranno fuori dalla fase difficile, ecco, proprio mentre accade questo continuano le critiche in casa nostra. Ma se ci pensate, in effetti è inevitabile, perché se i mercati finanziari vanno male, allora si dice, vedete, non c'è l'effetto Monti, no? Quando lo spread risale, Monti è arrivato e non è cambiato nulla, allora stavamo bene anche prima. Se invece i mercati finanziari, lo spread va bene eccetera, c'è chi dice, beh, perché Monti è il governo dei mercati, è il governo delle banche, si tira fuori questo argomento, la trilaterale eccetera eccetera, come fa per esempio Max Gazzè. Direte voi, ma che c'entra Max Gazzè? Niente, c'entra che sono interviste dell'estate in cui gli artisti vengono tirati per i capelli a dare giudizi su tutto e su tutti, lui però ventila un suo possibile discesa in campo nella politica romana a fianco di Zingaretti, che si candiderà alle prossime elezioni nella capitale. Poi gli chiedono cosa ne pensa della politica e del governo Monti. Ma guarda, mi piace assolutamente no. Mario Monti è un cecchino pagato da chi deve essere pagato. Mario Monti è presidente europeo della Trilateral Commission, per cui sta lì in Italia a fare il suo dovere, a eseguire un compito. E probabilmente è un governo inglese quello che abbiamo, non un governo italiano. Un governo inglese quello che abbiamo, dice Max Gazzè, che è probabilmente anche un po' ironico, però al di là del fatto che lo dica lui, è una cosa che pensano in molti in Italia. Ora, presidente della Trilateral Commission non mi risulta, perché sul sito della Bilderberg, questa entità che viene tirata in ballo, c'è stata anche un'interrogazione all'Europarlamento alcuni anni fa quando Monti era commissario europeo, lui viene dato come ex membro, però insomma sono argomenti che ritornano, come per esempio nelle argomentazioni Daniela Santanchè ieri sera in onda, che dice insomma non le sono andate giù per esempio le parole di Monti, che dice siamo quasi alla fine della crisi. Devo dire però che non mi sono piaciute queste parole di Monti quando si riferisce stavamo peggio un anno fa rispetto adesso, la crisi, cominciamo a vedere quella luce, che io invece vedo soltanto un buio molto profondo. Ma perché Daniela Santanchè vede solo buio profondo? Perché non le piace quel filo di ottimismo di Monti? Quando il precedente presidente del Consiglio, Berlusconi, l'ottimismo lo spandeva a piene mani, secondo alcuni anche giustamente, per dare un po' di speranza e anche per far ripartire un po' questa benedetta economia. Lei adesso vede solo buio profondo. Umberto Bossi continua nelle sue dichiarazioni estive, non so quanto gradite dai vertici della nuova Lega, poco, stando a alcuni retroscena che ci sono sui giornali, vorrebbero che parlasse di meno, l'ha detto anche il vice sindaco di Treviso Gentilini, ha detto Bossi dovrebbe finirla con queste dichiarazioni. L'ultima, ancora una volta, sui romani. Noi invece sono 2000 anni che abbiamo i romani sulle palle e siamo qui ancora, siamo ancora riusciti a metterli sul treno e a mandarli al loro paese, siamo ancora riusciti. Non siamo ancora riusciti a levarci i romani dalle palle. Molto sempre elegante Bossi in queste sue dichiarazioni. Del resto la Lega e Bossi in particolare è in campagna elettorale permanente, da qui fino a quando non si voterà. Calderoli, per esempio. Perché fino a un certo momento è andato in una certa maniera. Adesso sbanda, ma sbanda alla grande. Poi uno che ha messo lì Monti a casa deve andarci, perché il popolo non lo voterebbe mai. Questo era su Napolitano, però c'è un altro passaggio sui parlamentari Terroni. Si è riusciti a rifare approvare da un Parlamento che per due terzi è costituito da Terroni, che ne gode fa, il bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari, la fine del del centralismo e visto come si è comportato anche l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Ah, Calderoli, chissà, chissà quanti membri della sua scorta, che adesso non c'è più, erano Terroni, TG3. Svolta delle agenzie di rating, Italia fuori dalla crisi l'anno prossimo, dice Moody's, per Fitch basta austerità, ora riforme, entrambe promuovono Monti. Borse ottimiste nonostante il no di Berlino al piano BCE, Milano la migliore, spread vicino a quota 400, la Grecia prepara nuove misure. Famiglia Cristiana contro i Cellini, applaudono i ministri perché rappresentano il potere. Il paese sull'orlo del baratro, non serve l'ottimismo. Rabbia dei comuni emiliani colpiti dal terremoto, devono tornare a pagare le tasse. La replica, non è giusto che chi ha perso la casa paghi l'IMU. Orrore in Siria, trovata 40 corpi in una moschea, uccisi con un colpo alla nuca, morti un giornalista giapponese ed un reporter turco. Licenziati con un foglio appeso ad un palo, così 40 dipendenti marocchini di un'azienda agricola piemontese hanno scoperto di aver perso il lavoro. Continua l'emergenza incendi, arrestato un piromane per il rogo che ieri ha ucciso un forestale ed ora scatta l'allarme per possibili nubifragi. 800 24 00 24, Gianni ci chiama dalla provincia di Sondrio, buonasera, benvenuto. Pronto, buonasera. Prego Gianni, è in linea. Buonasera. No, non lo sentiamo, allora andiamo a Mario da Savona, buonasera Mario, Gianni purtroppo non lo sentiamo, lo recuperiamo dopo. Mario, buonasera, benvenuto. Sì, salve, buonasera. Eccoci. Eccoci, dunque, io volevo fare i complimenti intanto per come ha condotto l'intervista al governatore della regione Molise, Iorio, perché se continuava ancora per 10 minuti io non so quante fregnacce tirava fuori, con i derivati, che adesso c'è il consulente per capire se gli interessi sono giusti o meno. Prima, quando hanno invece diciamo accettato questi derivati, il consulente non ne avevano bisogno, e i molisani fanno bene a essere preoccupati, ma molto preoccupati di questa cosa qua, perché si stava arrampicando sugli specchi in una maniera incredibile. Non è l'unica regione il Molise, è l'unica zona. No, dove... ma infatti, però noi abbiamo provato a capirci qualcosa. Carità di Dio. Però visto che Iorio ha detto che loro invece sono in una botte di ferro e anche hanno tolto i vitalizi, io non ci credo assolutamente. No, sulla questione dei vitalizi, sa, è anche un obbligo di legge, le regioni si stanno adeguando. Poi, ma coloro l'abbiano già tolto da questa legislatura, può anche essere una cosa che ha a che fare col fatto che la legislatura è già morta, perché come sa bisognerà rivotare in Molise per tutte quelle questioni che ci sono state, intervenuta la magistratura, ma insomma del Molise abbiamo detto. Mario voleva dire qualcos'altro? No, volevo intervenire anche sul discorso della Santanchè e anche di Miciche, ma esistono ancora questa gente qua? Ma si rendono conto che alle prossime elezioni, che lei diceva che ci saranno a breve, e io spero non a breve, a brevissimo proprio, a brevissimo, ma questa gente qua esisterà ancora? Mario, grazie, buona serata. Spero di no, buona serata. Così. Che ci vogliamo fare? Salutiamo il nostro prossimo ospite, Mario Mauro, presidente dei deputati del PDL al Parlamento Europeo, nonché uomo del momento. Mauro, buonasera. Buonasera. Uomo del momento lo dico scherzando, ma in realtà è un po' così, perché lei è stato scelto dall'organizzazione del meeting di Rimini, credo, per accompagnare Monti durante il suo intervento, si è visto anche nelle foto. Alcuni retroscena dicono che lei è l'uomo di primo piano di Comunione e Liberazione in questo momento, è stato visto poi confabulare con Monti privatamente durante una cena al meeting di Rimini. Lei però ha già detto che non può riferire ovviamente i contenuti, però ha detto che Monti si è sfogato un po' di alcune situazioni con lei. Guardi, intanto filosoficamente parlando, essere l'uomo del momento non porta bene, perché come diceva Sant'Agostino, un momento dura appunto un momento. Lei ambisce a essere di più che l'uomo del momento. Finito quel momento, ma uno ci terrebbe a resistere almeno qualche secondo più. In più. E per quello che riguarda il presidente Monti, è stato lui che ha fatto un onore a noi tutti venendo al meeting, sì. E peraltro l'organizzazione del meeting ha accompagnato attraverso sue dirette espressioni Mario Monti nella visita. Semplicemente il Presidente ha voluto ricordare durante il suo intervento una cosa poi in fondo semplice, cioè che la sua idea d'Europa e la mia coincidono, e sì, questo è anche il frutto di un lungo lavoro condiviso negli anni in cui Monti è stato commissario. Commissario, sì, perché lei è stato citato all'intervento di Monti. Però di questa piccola, di questa conversazione, insomma, non sarà l'unica che avrà avuto con Monti, però che ha avuto lì al meeting e nella quale lui si sarebbe un po' sfogato, non ci vuole raccontare qualche particolare, non so, anche sull'umore di Monti o su aspetti collaterali? Monti è arrivato al meeting di ottimo umore, e per quello che riguarda le conversazioni private, sono appunto private. No, sa, perché lei adesso viene messo al centro di una rete, di una tela di non so che interessi, comunque di un attivismo, per esempio anche nel Popolo della Libertà, e in relazione anche alla sua vicinanza con Comunione e Liberazione. Però di questo parliamo magari anche tra un attimo. A proposito di Monti, secondo lei ha ricevuto tanti o pochi applausi? Perché qualcuno ha detto tanti, qualcuno dice ma non tantissimi, è stato interrotto qualche volta rispetto ad altri Presidente del Consiglio, ad altri ministri che sono intervenuti in passato, secondo lei? Il Presidente Monti ha ricevuto un'accoglienza sicuramente calorosa, non c'è nessun dubbio. E tenga presente, peraltro, tanto per render conto dell'essere al centro di una trama di interessi, che io invece ho una linea, diciamo, un'ispirazione politica molto chiara. Io sono cioè convinto che il Paese in questo momento, proprio perché tutti sono concordi nel dire che è un momento eccezionale, che come nel 45, che come dopo la guerra, sì, beh, facciamo quello che si è fatto dopo la guerra, cioè facciamo... promuoviamo intese che possano consentire, mettendo tutto il peso di cui siamo capaci sulla stessa mattonella, di difendere chi in questo momento è più debole e più esposto, le nostre imprese, le nostre famiglie, perché credo che questo sia il contributo che possiamo dare non solo all'Italia ma anche all'Europa, perché è anche l'Europa che rischia. Ma secondo lei questo Monti lo sta facendo abbastanza o no? Guardi, Monti è Presidente del Consiglio di un paese determinato sicuramente dall'entità immane del proprio debito, però anche di un paese che ha capacità reattive legate alla creatività della propria gente, e un paese che ha grandi risorse, grandi capacità di risparmio, e soprattutto un paese che ha il dovere di avere in sede europea, di stringere con forza la bandiera di una maggiore integrazione politica. Primo, perché questa è la nostra tradizione, secondo perché ci conviene. Però non mi ha risposto. Nel suo partito ci sono molti, abbiamo fatto sentire prima Daniela Santacchè, che criticano fortemente tutta l'operazione del governo Monti. Su questo credo che la sintesi più adeguata l'abbia fatta in fondo lo stesso Berlusconi. Noi sosteniamo con lealtà il governo Monti. Con lealtà non vuol dire soprattutto da parte di alcune sensibilità del partito, e anche forse a volte anche del partito intero, non essere critici, perché tanto per esibirmi io stesso in una critica al Presidente Monti, sì? Per esempio io diciamo una misura come quella dell'IMU la trovo per tanti versi controproducente, ciò non vuol dire che non si sia riconosciuta la necessità di doverla votare in quella circostanza, e quindi nel momento in cui si volesse ovviare a quella misura, chi ambisse al governo dell'Italia dovrebbe spiegare altresì come recuperare quelle risorse. Cioè lei ci sta dando un messaggio trasversale: abbiamo votato l'IMU, però quando tornassimo al governo in campagna elettorale proporremo di toglierla. Guardi, su questo non c'è nessun messaggio misterioso, nel senso no, misterioso, sono state un messaggio più volte sì, diciamo enucleate anche dal però scusi, come si fa per esempio, a fare una cosa Orfano, come no? Si fa a fare una cosa e poi sostenere che appena torneremo al governo faremo l'opposto? Non è un po' contraddittorio? Perché, no, intanto perché non vuol dire necessariamente l'opposto, ma qualcosa di diverso, vale a dire che a parità di saldi ci possono essere forme più eque. Questo lo dico perché pensi per esempio alla condizione in cui vengono a trovarsi. Io vivo in un quartiere di Milano, in un condominio per esempio che è fatto nella quasi totalità di vedove anziane, che quindi persone che sono arrivate ad avere un immobile in un quartiere di un certo tipo di Milano, quando magari vivo il marito si potevano permettere livelli di reddito, sì, e oggi soffrono di più. Ovviamente nelle circostanze eccezionali in cui queste misure sono state prese, come spento abbia riconosciuto spesso non solo Monti ma anche molti membri del proprio governo, non si è avuto nel tempo, nel modo di indugiare a lungo per cercare soluzioni più adeguate. Questo tempo sarà il tempo di una legislatura, quella futura, che io mi auguro di sapore di natura costituente, che rimettendoci di fronte alle nostre responsabilità ci dia il tempo e il modo di onorare gli impegni di Monti. Senta, adesso facciamo una pausa per le informazioni sui mercati finanziari, poi le voglio chiedere un giudizio su questo giudizio di Famiglia Cristiana in un editoriale non firmato, credo quindi attribuire proprio al direttore. A Rimini solo applausi al potere, cioè al meeting di Comunione e Liberazione, secondo Famiglia Cristiana si applaudono rappresentanti del potere solo perché vengono a rendere omaggio al popolo di Comunione e Liberazione. Un giudizio piuttosto tagliente, pesante. Le chiedo di commentarlo, visto che lei viene indicato come l'uomo in primo piano in questo momento di Comunione e Liberazione. Poi mi dirà anche se è vero che ha preso il posto di Formigoni nel cuore di CL. Prima però una pausa per la borsa. La Zanzara. Di nuovo in compagnia di Mario Mauro, presidente dei parlamentari europei del PDL, al quale chiediamo di commentare questo editoriale di Famiglia Cristiana a proposito del meeting di CL che l'ha visto, come abbiamo già ricordato, protagonista. Mauro ha introdotto ed è stato citato da Mario Monti nel suo intervento. Dice Famiglia Cristiana: sembra che a Rimini si applauda non per ciò che viene detto ma solo per chi rappresenta il potere e lì a rendere omaggio al popolo di Comunione e Liberazione. Accaduto in passato per Cossiga, Formigoni, Andreotti, Craxi, Forlani, Berlusconi, qualunque cosa dicessero poco importa, dice Famiglia Cristiana, se il paese intanto si avviava sull'orlo del baratro su cui ancora continuiamo a danzare. Un giudizio che lei come commenta, Mauro? Sono sinceramente dispiaciuto, perché mi appare un giudizio ingeneroso, intanto perché non tiene conto della realtà dei fatti. La standing ovation di domenica onestamente non è stata per Mario Monti ma alle 12.30 per Monsignor Kagaima, che ha rappresentato la diocesi di Jos in Nigeria, quella falcidiata dai massacri di Boko Haram nei confronti dei fedeli cristiani in questo anno. Lì abbiamo visto il potere dei senza potere, vale a dire il dramma che è scatenato dalla testimonianza di chi soffre a causa di contraddizioni di natura politica. E lo stesso applauso che ho sentito riecheggiare nella testimonianza del vescovo di Cipro, che ha ricordato le 610 chiese distrutte nella parte nord dell'isola e che esprime forse la contraddizione politica più profonda dell'Europa, con la richiesta turca di entrare in Europa e contemporaneamente con una parte del territorio europeo che è sotto occupazione militare. Quindi secondo lei semplicemente questa critica non è ingiusta perché è sbagliata, non è vero? Guardi, secondo me è vero che si applaude anche ad ipotesi apparentemente contraddittorie, però nel meeting di Rimini non si deve decidere la qualità delle linee politiche. Nel meeting di Rimini, il titolo per esempio di questa edizione è particolarmente significativo, ci si confronta con due giudizi. Il primo è legato alla natura dell'uomo e paradossalmente, proprio al contrario di quello che dice l'editoriale Famiglia Cristiana, noi diciamo che l'uomo religioso non dipende dal potere, perché è un uomo che non crede che la politica sia tutto, tant'è che pensa e spera che ci sia qualcosa di più grande della politica. Perché secondo lei? Il secondo passaggio che mi sembra altrettanto illuminante è relativo al rapporto che si ha col potere, che è un rapporto di rispetto. Noi dobbiamo pensare che chi ha il potere intanto sia in buona fede e quindi faccia del suo meglio esercitando le sue prerogative, le sue potestà per alleviare le condizioni in cui versa l'umanità. Questo vale per i politici, vale per i giudici, vale per chi ha potere economico, vale per chi è uomo della finanza, oggi sì. C'è una discussione, per esempio, di chi fa finanza in termini quasi caricaturali, dimenticando che la finanza è stata inventata dai francescani. C'è un rispetto per tutte le posizioni di potere, senza che questa parola potere abbia un'accezione negativa, anzi, per chi svolge delle funzioni importanti per la società. Ma perché allora, secondo lei, da Famiglia Cristiana possono arrivare delle critiche del genere? Un attacco politico premeditato? Che cos'è? Effettivamente, diciamo, l'articolo, più che un articolo di valutazione su un'esperienza ecclesiale, appare un articolo con un taglio fortemente politico. Poi, se è fortemente politico, a quale progetto politico miri, credo che questo vada chiesto ai redattori o alla redazione o alla direzione di Famiglia Cristiana. Senta, un'ultima cosa le volevo chiedere e gliel'ho anticipata. È vero che lei è adesso il politico di riferimento di Comunione e Liberazione? Lo è stato, lo è sempre stato, perché lei è vicino a questo ambiente da sempre. Però che avrebbe preso il posto di Formigoni, che invece dicono le cronache, io non sono stato a Rimini, che si aggirava un po' così tra gli stand, un po', come dire, non troppo al centro dell'attenzione. Guardi, intanto, per quanto riguarda la prima parte della domanda, Dio ce ne scampi e liberi. Detto perché ci sarebbe qualcosa di male? In fondo sì, perché io credo che un'esperienza come quella di Comunione e Liberazione è un'esperienza che ha il compito di educare le persone, non di promuovere leadership. Però sappiamo quindi benissimo che c'è anche invece un collateralismo nelle indipendenze, visto che lei lo citava prima, con il mondo della politica, non c'è niente di strano. Se vuole credermi può credermi, ma io in 50 anni, ormai ne ho 50, e diciamo, e almeno 35 di questi sono stati accompagnati dalla forma educativa dell'appartenenza a Comunione e Liberazione. Non credo di aver passato un solo giorno di questa vita ponendomi il problema di essere collaterale a qualcuno. No, ma che lei non se lo ponga, può darsi, ma che se lo pongano gli altri. Convinzioni politiche, sì. Che mi sembrano, diciamo, non, peraltro, ecco, io ho anche una biografia piuttosto particolare, perché sono stato, per esempio, un disciplinato elettore della Democrazia Cristiana negli anni della mia gioventù, senza essermi mai posto il problema di essere però adesso, della Democrazia Cristiana. Sì, adesso, ma questo è il suo atteggiamento, io questo lo posso anche accettare, però che invece non siano quelli di Comunione e Liberazione a porsi il problema di avere un politico di riferimento che potrebbe essere lei, questo lei non lo esclude. Tra l'altro c'era lei a fianco a Monti e non c'era Formigoni, che avrebbe potuto esserci, che però, ripeto, questo glielo chiedo, è vero che si aggirava Essere onesto, nell'incontro che abbiamo avuto, sì, con il presidente Monti c'erano diversi uomini politici, e quindi io non credo di aver avuto un ruolo particolarmente privilegiato. E Formigoni? Quanto a Formigoni, la cosa che ho notato io è che l'ingresso di Formigoni nel salone, che ha preceduto di qualche minuto quello del Presidente del Consiglio, è stato accolto con un'affettuosa ovazione dai presenti. Questo, diciamo, nella sala. Invece, credo che anche come testimonianza, in un momento in cui sicuramente gli attacchi a cui è sottoposto Formigoni sicuramente possono incidere sulla sua tempra. Comunque, perché veniva descritto un po' stanco, anche lei mi dice possono incidere sulla sua tempra, quindi sì, aveva l'aria un po' stanca. Io credo che non sia bello per una persona che ha pensato di consegnare la vita in tutte le sue forme a un'idea di servizio attraverso la politica, svegliarsi tutte le mattine e leggere su un giornale una descrizione che non corrisponde a come lui si sente, a come lui probabilmente realmente è. Il problema è poi vedere se invece corrisponde a quello che è successo davvero, perché in quel caso sarebbe diverso. Guardi, in questo però senso io sono molto sereno, sì, perché il fatto che ci sia un'inchiesta della magistratura, peraltro non la prima ma la quindicesima nel caso di Formigoni, che così come nei 14 casi precedenti possa attraverso un percorso di giurisdizione arrivare a riproclamarlo per la quindicesima volta innocente, c'è solo da curarsi. Va bene, grazie. Allora intanto buona serata Mario Mauro. Grazie per essere stato con noi. 800 24 00 24, per intervenire in diretta. Riprendiamo il filo degli ascoltatori. Abbiamo Michele che chiama dalla provincia di Alessandria. Buonasera. Buonasera. Eccoci. Volevo fare una considerazione sull'intervento di Max Gazzè. mi sembra spuntata la considerazione secondo la quale un musicista non potrebbe parlare di politica. Ascoltiamo giudizi espressi sui politici da casalinghe, medici, idraulici, artigiani. Credo che sia giusto che un musicista possa esprimere la sua opinione sulla politica, e in aggiunta a questo considero anche il fatto che non mi piace come musicista Max Gazzè, non mi piace come opinionista politico, però ha avuto il coraggio di esprimersi, e questo è sicuramente un elemento da apprezzare. Sì, sì, no, io non è che abbia detto che uno, un musicista, non deve esprimersi, ho detto solo che a volte queste interviste vengono un po' tirate per i capelli. Gli artisti sempre sono chiamati a esprimersi un po' su tutto, non sempre i risultati sono all'altezza, e forse nel sì, caso... Sì, è vero, però la considerazione secondo la quale ai musicisti tocca il mestiere di divertirci attraverso le note, la trovo una considerazione piuttosto, se posso permettermi, stupida, perché come diciamo uomini di cultura, ma anche come semplicemente cittadini, hanno il diritto, se richiesti, di esprimere un'opinione, di esprimerla. E onore a chi si espone apertamente a esprimere giudizi politici. Insomma, e si espone per questa delle critiche. A lei è piaciuto più come opinionista che come musicista, se ho capito bene, perché come musicista non lo diciamo, so. Cioè, in questo caso Gazzè ha conquistato un fan, però per... No, sì, però in un campo che non è il suo. Che non è il suo. Peccato che lei non è di Roma, perché se si dovesse candidare anche lui o far parte della giunta... No, ma non lo voterei. Difendo il suo diritto a esprimere opinioni, però non mi piace né come musicista né come opinionista. Grandissimo Michele, grazie, buona serata. La saluto. Anna Maria da Roma, buonasera, prego. Buonasera. Io volevo intervenire sul fatto del presidente del Molise, Iorio. Sì. Lei giustamente gli ha fatto notare molte cose di questo acquisto di derivati di 300 milioni, però credo che sia stato dimenticato un fatto, cioè che questa consulenza esterna per la modica cifra di 20.000 euro sia stata affidata a un suo parente. Sì, non è proprio così, non è un suo parente. Lei si riferisce... Io mi riferisco alla trasmissione di Focus, sì, oggi tenuta da Sebastiano Barisoni, che praticamente gli ha dedicato anche un applauso, che ha riferito minuziosamente su questo fatto, a prescindere che qualunque, secondo me, qualunque informazione e certificazioni va richiesta prima dell'acquisto. Sì, comunque, lei ha detto, cioè, mi ha messo che stiamo parlando della stessa cosa. Io l'ho omessa questa cosa qua perché secondo me non è rilevante. A chi avrebbe assegnato la consulenza è il genero dell'ex presidente della regione, ma è quello che ha assegnato la consulenza, non quello che si porta a casa tanto per brutalizzare i 20.000 euro. Questo no. Comunque va bene, Anna Maria. Voleva dire altro? Diciamo sempre un giro di amicizia e cose varie. Sì, questo insomma, anche è vero. Sì. Ecco, e oltre sì, al fatto che è del tutto inadeguato, io non capisco con quale faccia venga a giustificare un'operazione di questo genere. Va bene, grazie Anna Maria, buona serata. Grazie a lei per, guardi, le faccio molti complimenti per la sua intelligente e pacata conduzione. Grazie, grazie Anna Maria, e fanno sempre piacere i complimenti. Luca da Padova, 800 24 00 24, prego. Sì, buonasera. Sì. Ascolti, allora io mi occupo di un'azienda, la Dirigo, che è un'azienda di circa 50 dipendenti nel nord-est, e vedo tutti i giorni quello che succede attorno a me, ai clienti, vedo tutti i giorni quando mi reco dai clienti o mi reco dei fornitori o parlo con le persone che mi stanno intorno di svariate cose, vedo tutti i giorni come va. E mi si torcono le budella, mi creda, quando sento i discorsi che ho sentito prima, o che ho sentito stamattina sui consiglieri del Lazio, che comunque vengono fuori aprendo a caso un giornale a caso in qualsiasi pagina tra le prime cinque. Ossia, mi viene a nausea pensare quello che sta succedendo, dei soldi che stiamo tirando fuori in maggior misura oggi, e che purtroppo avranno il destino che hanno avuto fino ad adesso. Questa mia amara considerazione per dire cosa? Per dire che mi sembra che, a parte gli scatti di ira o di nervoso che possono venire a chi di turno ha la giornata magari con meno difese pronti a sorreggerlo, questo per dire che io spero che andremo a votare presto, non perché sia inviso Monti o perché ci sia qualcosa di meglio dietro l'angolo, ma perché spero che arrivi una di quelle, come si può dire, sbarazzate di tavolo da non lasciare più niente sopra, perché è l'unica maniera, mi creda, che vedo per riuscire a capire come fare a ricominciare, perché qua la situazione un giorno va bene, un giorno va male, quando poi qualcuno dice che l'Italia è fuori, allora euforia, champagne e divertimento, ma mi creda, tutti i giorni, quando è la fine del mese per pagare i fornitori, quando è la pagare gli stipendi, IVA, contributi, tutti i giorni sono un piano inclinato verso il basso. Grazie, allora, Luca. Io sono contento che la cosa vada avanti, ma non potrà andare avanti in questa maniera qua. Spero che cambi nella maniera che dicevo. Massimo rispetto sempre per tutte le situazioni particolari e per chi deve poi affrontare, come tutti del resto, la propria attività economica, il proprio tirare avanti in questi momenti non facili. Ieri sera stavamo intervistando Giovanni Favia, consigliere regionale dell'Emilia Romagna per il Movimento 5 Stelle, Grillino, e con lui abbiamo parlato di vari argomenti, non ultima la questione delle presenze in TV a pagamento. Dopo averle difese, Favia poi ha detto che non lo farà più, ha detto forse c'è stata un po' di leggerezza, e quindi diciamo gli abbiamo chiesto se era un diktat che veniva da Beppe Grillo, perché insomma nel Movimento 5 Stelle di censure, di esclusioni dal movimento, di post sul blog di Beppe Grillo che dicono questo si può fare, questo non si può fare, ce ne sono state ultimamente. Ci ha chiamato durante l'intervista Vittorio Balestrazzi, buonasera. Buonasera, buonasera. Che adesso l'abbiamo richiamato, ex consigliere comunale a Modena, sempre in Emilia Romagna, sempre per il Movimento 5 Stelle. È passato anche lui attraverso una vicenda di espulsione, ci ha mandato anche la lettera con cui Beppe Grillo le intima di non utilizzare il simbolo, di non fare riferimento al Movimento 5 Stelle, eccetera, eccetera. Prima di tutto vorrei chiederle, poi ci parlerà anche della sua vicenda, cosa c'è che non andava, le diamo diciamo il diritto di replica rispetto all'intervista di Favia, cos'è che ha detto Favia che secondo lei non è vero, che non condivide? Ma Favia ha semplicemente espresso la sua tesi, che è una tesi di giustificazioni, di scuse su una cosa che non è però andata così, perché qui c'è da chiarire una cosa. Favia ha usato, probabilmente ha usato, i fondi del gruppo consigliare o, nella peggiore delle ipotesi, degli altri fondi, che dopo posso anche spiegare quali potrebbero essere. Comunque diamo per buono che ha usato i fondi del gruppo. Credo che abbia detto che erano i fondi del gruppo, credo che questo l'abbia detto benissimo, pubblicamente. Allora, sì. Perfetto, se ha usato i fondi del gruppo consigliare doveva chiaramente mettere nel piedi lista della trasmissione del video, ci doveva essere scritto messaggio promozionale o messaggio istituzionale del gruppo Movimento 5 Stelle. Allora, non mettendocelo, è ovvio che si dà un'idea a chi ascolta, a chi vede o a chi ascolta, che invece quella sia una libera trasmissione di informazione pura e quindi ci sia un libero dibattito, un libero contraddittorio e soprattutto le domande non si sanno prima. Allora, se per molti partiti questo è normale, perché purtroppo siamo abituati così, il Movimento 5 Stelle adesso e le liste civiche tipo la mia Modena 5 Stelle, comunque le liste a 5 Stelle, sono nate proprio per combattere un simile andazzo e soprattutto per essere il più trasparenti possibile con i cittadini che ci votano. Devo dire che su questa vicenda delle presenze in TV a pagamento, anche se poi sono state definite messaggi autogestiti, eccetera, la cosa non è chiarissima, è poco trasparente e lascia qualche margine di dubbio, tant'è vero che poi parole rimangiate, autocritiche, eccetera, eccetera, credo che questa usanza si fermerà. Balestrazzi, però, le vorrei chiedere questo, di raccontarci la sua espulsione dal movimento Beppe Grillo, se lei adesso è fuori dal movimento 5 Stelle, non Beppe Grillo, per questa lettera che ha ricevuto e perché? Perché questo tema delle espulsioni sembra ricorrente, è accaduto, abbiamo già intervistato qualche sera fa un altro, tra l'altro sempre in Emilia Romagna, ma c'ha un senso, perché l'Emilia Romagna è quasi la culla del movimento, cioè i migliori risultati sono stati praticamente avuti da tutti quelli che si sono candidati in Emilia Romagna. Lei è stato eletto in Consiglio Comunale a Modena, poi diciamo ha fatto il turnover, si è dimesso lasciando spazio a un'altra consigliera, sì, perché questo lo prevede il vostro diciamo statuto. Però nel frattempo che è successo? Perché è arrivata questa espulsione? Ma è molto semplice, è nella sua come dire, linearità. Innanzitutto devo fare questa precisazione. Io dopo 3 anni avevo detto che mi dimettevo per lasciare il posto al primo o alla prima dei non eletti, proprio per una questione di partecipazione dei cittadini alla vita politica, e quindi questo ho mantenuto, non c'era in nessuno statuto, era proprio una promessa elettorale personale, e già mantenerla direi che in questa Italia per un politico mi sembra una cosa decente. Poi a parte questo, però, la cosa principale è questa: io che sono stato eletto nel 2009, nel 2010 ho partecipato attivamente alle elezioni regionali supportando i candidati del nascente Movimento 5 Stelle. Bene, cosa è successo? Che qui a Modena avevamo Giovanni Favia sia candidato a Bologna che a Modena, abbiamo ottenuto 2 consiglieri, 2 seggi in regione. L'accordo, ma un accordo trasparente da chi crede nella democrazia, era che se c'era una situazione del genere Favia sceglieva Bologna e a Modena ci andava un modenese. Bene, Favia ha scelto Modena e a Bologna ci è andato il suo portaborse. Mi assumo la responsabilità di questa parola, perché il ragazzo che è nato al posto del modenese a Bologna portava proprio le borse di Favia quando veniva. Lei si riferisce quindi al secondo consigliere comunale della regionale? Sì, il secondo consigliere regionale, che doveva essere Poppi Sandra, perché aveva preso... invece è stato poi? Andrea De Franceschi. Le dico solo un dato per far chiarezza ai cittadini. Bene, Poppi Sandra in una circoscrizione che è la metà di Bologna aveva preso 730 preferenze personali. Andrea De Franceschi in una circoscrizione più grande, il doppio, cioè quella di Bologna, ne aveva prese 320-330. Quindi in un colpo solo Favia ha ottenuto questo capolavoro. Ha negato le pari opportunità, perché una donna e un uomo era il massimo che si poteva ottenere in Consiglio regionale. Ha negato le preferenze dei cittadini, e vi ricordo che Grillo aveva raccolto 350.000 firme proprio per ripristinare le preferenze alle politiche. E il Movimento 5 Stelle, nella prima volta in cui c'erano le preferenze, cosa è successo? Le ha negate clamorosamente. Quindi lei dice, alla fine è stato Favia a contravvenire allo statuto, però è stato lei ad essere espulso perché ha sollevato questa questione. Certo, io lo sollevate pubblicamente, io ho 50 però, anni, dottore, sì. Però non è che non è che per caso ha influito anche il fatto che io leggo, tra l'altro non c'è niente di strano, lei a un certo punto si è iscritto alla Lega Nord. Ma assolutamente, non ha influito per un motivo molto semplice. Sa perché non ha influito? Perché io sono stato espulso in giugno del 2010, sa quando mi sono iscritto come sostenitore? In aprile del 2011, sa perché mi sono stato iscritto alla Lega Nord come che sostenitore, non come militante? Glielo dico chiaramente, perché la Lega Nord, insieme al sottoscritto, che è stato anche presidente del WWF per 10 anni, lotta aspramente in comune di Modena contro il raddoppio dell'inceneritore. Allora gli ho dato una mano, perché io lavoro non per ideologia, per schieramenti, ma per fatti concreti. Quindi, non a caso, parliamoci ben chiaro, in Veneto il sindaco che ha vinto in Veneto per il Movimento 5 Stelle ne ha presi di voti della Lega, che questo, voti della Lega non andava da nessuna parte, parliamoci ben chiaro. Ma e quindi se lei dovesse dovesse dire il perché di tutta questa vicenda, c'è stato un malinteso quindi con Grillo? No, non c'è stato nessun manito. Innanzitutto tengo a precisare che però la mia esperienza con la Lega da sostenitore della battaglia contro l'inceneritore è finita nel dicembre 2011, cioè 7-8 mesi, perché impegnando, ho visto che si sono impegnati, abbiamo fatto Lei adesso si sente parte del Movimento 5 Stelle ancora? Assolutamente, io mi sento parte del Movimento 5 Stelle come Valentino Tavolazzi, perché il Movimento 5 Stelle, se fosse veramente un movimento vero dal basso, tutti sarebbero uguali e quindi Beppe Grillo e soprattutto anche il signor Casaleggio dovrebbero essere persone che hanno un voto come tutti gli altri e decidono tutti insieme. Purtroppo c'è un però. Il però qual è? Che Beppe Grillo è il proprietario esclusivo del marchio, è come se uno fosse proprietario del marchio di un famoso detersivo, e qui invece trasferiamo il detersivo in politica, quindi lui tratta la politica come un marchio commerciale. In questa maniera tutte queste belle parole, siamo tutti uguali, dal basso, io lascio fare, non è vero, perché alla fine arriva la mannaia di Beppe Grillo e l'ha fatto. Le do anche una news, che se posso continuare in due parole gliela dico. Vede, io quando mi sono battuto per le preferenze, la consigliera che doveva subentrare, cioè doveva andare in regione, si chiamava Sandra Poppi. Bene, in giugno di quest'anno io mi sono dimesso, la prima degli eletti in comune si chiama Sandra Poppi, cioè è una persona che ha del seguito elettorale. Bene, sa cosa ha fatto Grillo dopo due giorni che lei aveva ufficializzato che rientrava, cioè ripristinava il simbolo di Modena 5 Stelle, beppegrillo.it, quindi nonostante quegli schiaffi che gli avevano dato, voleva fare un gesto accomodante. Che cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ha fatto un PS sul blog e l'ha espulsa dopo due giorni senza nessuna motivazione. E siamo a due. Quindi adesso il consigliere comunale di Modena non è, formalmente non è più del Movimento 5 Stelle, perché è stato espulso. Guardi, da Grillo. Coerentemente. Però aspetti, resti un attimo in linea. Dobbiamo fare una pausa doverosa prima delle 20. E poi ci risponde su questo e sul tema della democrazia interna, però l'ha già detto, all'interno del Movimento 5 Stelle. La Zanzara. Prima di tutto però una risposta a un ascoltatore al 349-238-6666. Dice che alla Zanzara filtrano solo cittadini di sinistra e tifosi del conduttore con una schifezza repellente. Guardi che qua non filtra proprio niente. Le telefonate non sono affatto filtrate, chiunque chiama lo può sperimentare tranquillamente. Se la gente fa apprezzamenti o deprezzamenti, questo è solo nella loro libertà di farlo, caro ascoltatore, perché sennò qua ci raccontiamo delle palle. Però siamo con Vittorio Balestrazzi, ex consigliere comunale a Modena, non so come definirlo, per lui appartenente al Movimento 5 Stelle, però ha ricevuto una lettera di Beppe Grillo che lo diffida dal usare il simbolo, riferimenti diretti o indiretti al Movimento. Io la lettera posso anche leggere un passaggio. Mi vedo costretto a intimarle la immediata cessazione di ogni utilizzo in qualsiasi forma e modo del nome, dell'immagine del sottoscritto e di ogni riferimento alla mia persona, diffidandola in particolare dell'identificare la sua attività politica attraverso simboli, elementi grafici, scritti ed espressioni in genere che riconducano direttamente o indirettamente alla persona del sottoscritto. Poi cita una sentenza della magistratura che gli ha dato ragione: la facoltà del sottoscritto di pretendere la cessazione di ogni attività politica e propagandistica che si appoggi anche solo indirettamente alla propria notorietà e reputazione è già stata riconosciuta dalla magistratura in duplice istanza. Dice: io sono il titolare in via esclusiva del marchio del Movimento 5 Stelle. Quindi lei dice, Balestrazzi, Grillo tratta tutto come una cosa commerciale. Sì, beh, direi che la lettera che lei ha letto è eloquente al riguardo, tratta tutto come cose commerciali, per di più non c'è stato nessun dibattito, cioè se fosse veramente un movimento dal basso... Ma lei è stato difeso da qualcuno oppure... Se voi avete estrapolato quella lettera, nello stesso sito c'era la lettera di quelli che facevano parte del mio gruppo, che quando avevano capito che per le regionali si stava perpetrando questo misfatto, hanno cercato di, perché credevano in Grillo, hanno cercato di spiegargli che così si negavano le preferenze, che sono le cose principali, cioè senza le preferenze la democrazia è praticamente nulla. Quindi il problema è proprio quello, c'è la mancanza completa di democrazia. Poi ci sono quelli che hanno i paraocchi, perché in tutti i partiti ci sono quelli che vanno avanti come dei treni e quindi non si fermano davanti a queste cose, che è la democrazia diretta. Volevo dirle una cosa, poi velocissima. Sì, sì. sulla democrazia diretta è importantissimo. Guardi, attualmente c'è una raccolta che sta finendo proprio in questi giorni, in questi ultimi due giorni, di raccogliere le firme per una proposta di legge nazionale popolare sulla democrazia diretta, con tutta una serie di principi. Bene, Beppe Grillo in uno o più dei suoi post cita sempre la democrazia diretta e pesca a piene mani da quella proposta, ma si è ben guardato una volta sola, ma neanche una volta proprio, di citare che c'era quella proposta da andare a firmare. Altro esempio, Parma hanno vinto, Comacchio hanno vinto, in un altro paese hanno vinto, bene, in questi tre paesi nessuno ancora di questi sindaci si è ben guardato da proporre la democrazia diretta in quei paesi lì, in quei comuni, e loro invece ci mangiano con la democrazia diretta. Sono nati su due cose, il Movimento 5 Stelle è nato su due cose, il no agli inceneritori e la democrazia diretta, e chi lo dice è quello che ha fondato la lista di Modena, quindi lo sa con cognizione di causa. Ma adesso lei, Balestrazzi, cosa farà? Continuerà a far politica? Farà ricorso? Non so se si può fare ricorso. No, ma che ricorso? Io faccio politica per fare, fra virgolette, il bene della comunità dove abito, che è la comunità modenese, quindi i ricorsi non si fanno. Ma adesso in politica. Nel Movimento 5 Stelle ci crede ancora o no? Il Movimento 5 Stelle è un movimento come tanti altri, ha dimostrato purtroppo, e me ne dispiace tantissimo, che è un movimento che si basa solo sulla popolarità di chi porta avanti tutto questo baraccone, che sono due, sono Casaleggio e Grillo, perché parliamoci chiaro, dottore, è molto più difficile senza questa fama che precede quando arriva in una città a fare il suo comizio. Senza Grillo i candidati del Movimento 5 Stelle probabilmente li votavano solo i parenti, e di questo io ne sono ben consapevole, quindi bisogna chiarirci, la democrazia vera è faticosa, questa è plebiscito, non è democrazia interna questo partito. Purtroppo gli italiani si vede che si meritano questo, prima avevano Berlusconi, poi Bossi, adesso hanno Grillo, e il primo che passa, che riesce a convincere gli italiani in una certa maniera, purtroppo a questo, guardi, io qua, e poi cioè la sua considerazione alla fine è questa: nonostante il dissidio con Grillo, lei dice senza Grillo i candidati del movimento, lei compreso, probabilmente non avrebbero preso i voti che hanno preso, quindi questo binomio deve andare avanti, quindi lei in qualche modo dà atto di questa realtà anche a Beppe Grillo. Non è che do atto di questa realtà, insomma, direttamente il problema sì. È una nota triste questa, sì. Io sono andato su un discorso più grande, il discorso della politica e soprattutto dei cittadini italiani che non si impegnano abbastanza in politica, non partecipano. Si ricorda la canzone di Gaber? Se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione, e la libertà è partecipazione. Il nocciolo è tutto questo. Gli italiani delegano sempre e purtroppo molte volte prendono delle cantonate, solo che se ne accorgono troppo tardi. Grazie Vittorio Balestrazzi, prego. Buona serata e auguri per le sue future battaglie politiche dentro o fuori il Movimento 5 Stelle, non lo so. Comunque mi è sembrata un'intervista interessante perché ha messo in luce un po' di aspetti attorno a tutto questo. 800 24 0024, tra poco riprendiamo con gli interventi degli ascoltatori, adesso TG1. Moody's e Fitch, l'Italia ce la farà, uscirà dalla crisi nel 2013, ma occorrono le riforme, borse positive, Milano la migliore, giù lo spread. Partiti scettici sulle agenzie di rating, Italia salva anche senza di loro, PDL e PD, ora riforme e provvedimenti per lo sviluppo. Siria uccisi ad Aleppo, due cronisti stranieri, 70 morti a Damasco, esecuzioni sommarie, allarme Caritas, capitale asfissiata dalla violenza. Ancora incendi in molte regioni, arrestato il piromane di Avellino, parla la moglie del forestale morto per spegnere il rogo. Calcio scommesse, concluso il dibattimento dopo le arringhe degli avvocati di Bonucci e Pepe, entro domani la sentenza. Per scoprire tracce di vita su Marte, la sonda della NASA Curiosity sta lanciando raggi laser sulle rocce del pianeta rosso. A 50 anni di distanza, Adriano Celentano ha ricantato la canzone dell'estate del 1962, La Mezzaluna, la nuova versione arrangiata da Rafael Gualazzi. Quell'anno fu fondamentale nella storia del moleggiato che scalava le classifiche. Germano dalla provincia di Venezia, buonasera, prego. Buonasera, io dopo l'intervento che ho sentito adesso sono ancora più convinto di quello che volevo dire prima. Allora, io sono un ex elettore di destra, sono un ex del Movimento Sociale Italiano, poi Alleanza Nazionale, poi ho votato anche per la Lega, credendo che la Lega fosse quella per il Veneto, fosse quella che ci dava una mano. E adesso le ultime due tornate elettorali, anche nelle comunali, mi sono rifiutato di votare. Anzi, ho votato e ho annullato la scheda. Allora io dico, Crisi, partiti ormai, destra, sinistra, sono tutti quanti uguali. Credo che ormai l'etica sia una bella parola. E che bisogna un po' rivedere e prendersi il tempo per ripartire bene. Di politici bravi e giovani ne abbiamo, ma purtroppo abbiamo i vecchi signori della politica che sicuramente quella colla speciale che non si trova nei negozi non la accederanno nessuno. Allora io credo che la soluzione forse sia quella di andare tutti a votare, perché è il nostro diritto, ma che sia il nostro diritto di non aspettare il nostro voto, di annullare la scheda e dire non ci va bene nessuno, in modo che magari Monti sia in qualche modo legittimato da noi italiani e non adesso obbligato a mediare un po', perché magari poi rischia di saltare il governo, e fare quelle riforme che servono, seri, per questo paese, perché è un paese che ha una potenzialità enorme, è un paese che ha ricchezza, che ha gente brava, anche molti delinquenti, ma la maggior parte sono bravi italiani. E riscrive un po' questa Italia, perché se no, io veramente ho paura. Germano, lei indirettamente comunque avalla l'importanza di una riforma della legge elettorale, dove il cittadino possa comunque tornare a scegliere chi votare, anziché trovarsi le liste già fatte e non poter scegliere il candidato, o con la preferenza, oppure tramite, come dicono altri, collegio uninominale, dove ci sono diversi candidati e uno si sceglie il proprio candidato. Questo almeno questo potrebbe essere un messaggio. Grazie, buona serata Germano. Facciamo sentire i titoli della 7. Dopo averci declassato poco più di un mese fa, le agenzie di rating rivedono positivamente il giudizio sul nostro paese. Per Moody's nel 2013 il PIL tornerà ai livelli pre-crisi. Giudizio positivo anche da Fitch, che elogia la credibilità del Premier Monti. È merito suo se l'Italia migliore, sottolineando i rischi politici per la sua uscita di scena a fine legislatura. Diversa la posizione di Standard & Poor's, che vede la possibilità di una nuova recessione negli USA e nessun miglioramento nell'Eurozona. Piazza Affari, la migliore tra le borse europee, tutte in rialzo, mentre lo spread tra BTP e Bund tedeschi ricomincia a scendere, tornando ai minimi dal mese di luglio. Molto bene anche l'asta dei bonus in Spagna, con tassi in calo, mentre in Grecia il governo annuncia un nuovo pacchetto di tagli alla spesa pubblica pari a 13,5 miliardi di euro, due in più di quelli richiesti dalla Troica europea. Dopo gli applausi che hanno accolto Monti alla kermesse di Comunione e Liberazione, un editoriale di Famiglia Cristiana gela gli entusiasmi. A Rimini si applaude non per quello che viene detto, ma per chi lo dice, cioè i rappresentanti del potere. Si è omaggiato l'ottimismo del Premier quando il paese è allo stremo. Senza entrare in polemica, replica Formigoni, solo questione di bon ton, noi siamo educati. La vicenda della trattativa Stato-mafia e le intercettazioni napoletane, dallo scontro istituzionale interno alla politica e alla magistratura, che ha dato vita a schieramenti ben distinti, si è arrivati alla battaglia senza esclusione di colpi tra grandi firme dei quotidiani. Il Fatto contro Repubblica, Travaglio contro Scalfari. Dopo i danni e anche la beffa, dal 1 ottobre stop alle agevolazioni fiscali per le popolazioni colpite dal sisma in Emilia-Romagna, una scadenza richiesta dall'Agenzia delle Entrate ritenuta ingiusta dal presidente della regione Errani, che in una lettera congiunta con gli omologhi Formiconi e Dai chiede a Monti una proroga fino al dicembre 2013. È Aleppo, la città su cui esercito regolare e insorti si stanno giocando in Siria la partita finale. Trovati 40 cadaveri di attivisti giustiziati con un colpo alla testa, morti due reporter, ed è alta tensione tra i regimi di Assad e Stati Uniti. Vogliono invaderci come l'Iraq. Da Mosca il vicepremier siriano replica quindi con durezza la Casa Bianca, che così aveva dissuaso il regime di Assad dall'uso delle armi chimiche. Cambierebbe la nostra strategia, solo un pretesto per la campagna elettorale americana, replica ancora il vice di Assad. La Zanzara. 20 e 12 minuti, 800 24 00 24, riprendiamo il filo con gli ascoltatori. Avete sentito i titoli della 7, Sommaiuolo un piccolo errore l'ha fatto anche stasera, Zai invece di Zaia, ma certo ti credo, sono lunghissimi i titoli, come fai a non sbagliare? Durano due minuti, letti di fila, di corsa in quella maniera lì, poi è chiaro che ti scappa il lapsus come l'altra sera. Gianluigi da Genova, prego, buonasera, benvenuto. Buonasera a lei. Innanzitutto, prima di tutto, le faccio i complimenti per avermi fatto ritornare a Zanzara, che con Cruciani l'avevo abbandonata. Quello che volevo dire, invece, circa stasera, contestare l'onorevole Mauro su un'affermazione. Lui ha detto, se non sbaglio, che si auspicherebbe, visto il paragone con il 45, di fare la costituente. Io vorrei dirgli che, purtroppo, quei politici, tra l'altro della sua area, tipo un De Gasperi, erano di un altro spessore, quindi farebbe bene, visti gli esempi che hanno dato gli attuali politici, compresi quelli di CL, a non portare questi paragoni, è questo che volevo dire. Poi per il resto sì, sono d'accordo con i Paolini, con anche del suo collega che ha detto non ci sono più neanche nelle parrocchie. Posso assicurare che nella parrocchia dove sono io c'è Famiglia Cristiana, e oltretutto io sono anche d'accordo con Famiglia Cristiana. Grazie, buonasera. Grazie Gianluigi. Clotilde dalla provincia di Roma, buonasera, benvenuta. Buonasera, che piacere parlare con lei. Piacere nostro, adesso no, ci conosceremo meglio. Sì. Ieri, non so se poi vabbè l'ha ricevuto, comunque. Sicuramente sì, però magari non possono averci fatto caso. Qual è il tema dei suoi interventi? No, il messaggio era tutt'altro, era proprio un inno alla sua... conduzione. Vabbè, questo, quindi sì, punto quello. E allora io invece volevo parlare, sentendo l'intervista De Magistris, del fatto appunto della trattativa Stato Mafia, ecco, che ne parlavano nei titoli adesso la 7, no? Perché non ne parlate mai? Una domanda che mi pongo. Cioè, trattate vari argomenti, tantissimi, interessantissimi, no? Però a parte questa intervista, cioè quindi questo pezzetto, diciamo, no? Con De Magistris, però non avete mai parlato, eppure è una cosa che sta prendendo piede, che comunque intriga, che comunque interroga anche, no? Sì, sì, noi nel nostro piccolo ce ne siamo, almeno quella domanda De Magistris gliel'ho fatta, quindi insomma... per quanto mi riguarda ho esaurito il compito. No, non lo so, ci sono spazi diversi dentro la programmazione di Radio 24, si affrontano vari argomenti. Clotilde, voleva aggiungere qualcosa? O... è un'altra cosa, sì, sentendo questo di 5 Stelle, io mi auguro veramente che Grillo non prenda piede. Io non amo nessun partito in questo momento, però Dio ce le scampi libere davvero Grillo. Avremo un secondo Berlusconi, poi non parliamo di Passera che si sta presentando a livello già politico, insomma, non sta più facendo il ministro tecnico. E poi ecco, aspetto un'altra cosa, poi la lascio. Ma deluso Monti, nel senso che deve avere più coraggio. È vero che deve rispondere a certe maggioranze, soprattutto al PDL, ma a quel punto io avrei preferito che mi sfiduciassero. E poi vai davanti agli italiani e racconta perché, soprattutto sul fatto giustizia, corruzione, il decreto, appunto, adesso si riparla del decreto bavaglio. Ma deluso su questo. Vabbè, vedremo. Sulla giustizia sono annunciate delle cose. A settembre c'è il famoso trittico, intercettazioni, responsabilità civile dei magistrati e DDL, decreto, non ricordo più, anticorruzione. Staremo a vedere se ci saranno queste novità e vedremo. Grazie Clotilde. Facciamo una pausa per il traffico, poi rientriamo all'ultima parte del programma con i vostri interventi. 800 24 0024. La Zanzara. E allora riprendiamo con Duilio che ci chiama da Aosta. Buonasera. Buonasera. Prego. Io la stimo molto e posso esordire con una domanda. Lei è credente? Vabbè, ma non lo so neanch'io forse. Ecco. No, perché guardi, io sono ateo dalla tenera età di 12 anni e mi sono rifiutato anche di fare la cresima, perché tutte quelle che ci propinavano catechismo mi sembravano tutte menzogne. E quindi lei mi deve capire, io penso di, vedendo tutti questi politici che ci stanno governando al meeting di Comunione e Liberazione, che per me CL è un acronimo che significa non Comunione e Liberazione ma altro, non sto a dirlo altrimenti avrei querele e minacce, Non lo vuole dire, no? No, dal mio punto di vista siamo in mano dei pazzi, cioè io non posso, mi consenta, non posso non dubitare dell'intelligenza di una persona che crede che un uomo possa risorgere. Cosa mi dica? Beh, qualcosa? Dubbio, ma che argomentazione è? Cioè, qua si parla di lei. No, ma come faccio ad aiutarla io? Queste sono questioni spirituali, no, molto complesse. Mi fa paura essere in mano a dei politici credenti, questo volevo soltanto esprimere. Ma a me mi fa paura anche Duilio da Aosta, che chiama per dire questa cosa qua. Cioè, scusi, perché dovrebbe avere più fiducia invece in chi non crede nella resurrezione? In chi non crede in niente. Esatto. In chi è ateo e agnostico. E perché, scusi, perché una delle due tesi, sempre, diciamo, usiamo questa espressione, indimostrabili. Siamo perché in una stretta minoranza, però è questa la domanda di fondo. Per me non capisce il mio punto di vista? Cioè, ho capito cosa ha detto, questo l'ho capito perché ho sentito e ho ascoltato, però non capisco perché lei non c'ha questa preclusione. Perché mi fa paura vedere Monti, la Fornero e tutti al meeting di Comunione delle Relazioni. Ma questa è un'altra cosa, non c'entra nulla con la risurrezione, Duilio, non c'entra col credere e con il credere. Lei è esordito dicendo se io credo... Ho pochissima fiducia in quelli che credono, capisce? Tutto lì, come pochissima fiducia, niente nella Chiesa. Vabbè, lei ha pochissima fiducia in generale, forse, nel genere umano. No. Nel genere umano non lo so. Sì, può anche darsi. È un po' sconsolato, Duilio. Comunque, guardi, la Fornero non lo so se è credente, non credo. Cioè, se non è che se un politico va a Comunione e Liberazione, va al meeting di Rimini, è credente, e allora dal suo punto di vista non è attendibile. A parte che il ragionamento non sta in piedi, però non è che tutti quelli che vanno lì sono devoti. Ecco, questa magari potrebbe essere un'espressione. Vabbè, Duilio, che ci vogliamo fare? Niente, no, volevo solo, più che esprimere la mia, sapere anche la sua. No, ma io gliel'ho già detto, sono temi talmente complessi, cosa vuole che ci diciamo? Comunque non condivido il fatto che chi crede o chi non crede nell'aldilà, nella resurrezione, in tutte queste cose qua, sia più o meno titolato a parlare delle cose terrene. Non, sono cose così diverse, così distanti, che secondo me non c'entra proprio nulla. Comunque... Nico, da Chieti, buonasera. Buonasera. Prego. C'è da rimanere allibiti dall'ultimo intervento, ma comunque ognuno la pensa come vuole. L'importante è che poi alla fine riesca a capire pure gli altri. Questo magari sì. Dunque, due cose brevissime, che ho paura che mi abbandoni la batteria del telefono. Prima su Monti, tutti contro Monti. Io dico che meno male che c'è qualcuno che ha un alto senso dello Stato e ha preso le redini in mano in questo paese, perché da una trasmissione che sentivo da Giannino, prima della fine della Prima Repubblica avevamo, diciamo rapportandolo ad oggi, 900 miliardi di euro di debito. Oggi siamo a 2000 miliardi, quindi è frutto della classe politica che ci ha governato e che ci stava portando purtroppo al baratro, ma non è riferito alla singola persona, è proprio riferito a un modo di ragionare che abbiamo, che prima non ci ha portato a fare delle riforme importanti, poi c'è voluta questa terzietà da parte di Monti per far ragionare un po' tutti, chi tirava da una parte, chi tirava da un'altra, però alla fine certi risultati sono raggiunti. Quindi io penso che Monti, al di là di trilaterale dalle altre cose, abbia un grande senso dello Stato, e meno male che c'è. E su Grillo, dopo l'intervento di Balestrazzi, praticamente conferma ciò che pensavo già da un po' di anni fa. Ha trovato una platea attenta, ha ritrovato il suo successo e va avanti purtroppo sulle disgrazie della gente che non trova riscontro in questa classe politica, che è organizzata un po' come nel Medioevo, dove ci sono baroni, Valvassori, Valvassini. Cioè Grillo, secondo lei, si comporta da barone? Ma ma certo, perché poi alla fine, quando sentiamo le testimonianze di Balestrazzi, no, io mi risento, purtroppo, servo della gleba dove vengo chiamato a votare, e poi nella varia scala di organizzazione medievale si collocherà il mio voto a seconda di quello che vuole il barone di turno, insomma. Cioè, se non cambiamo questo tipo di mentalità sarà molto difficile andare avanti. C'è da dire che però a fronte di un Balestrazzi ci sono tante altre storie, ci sono candidati scelti sul terreno, ci sono tante altre questioni che riguardano il Movimento 5 Stelle, che certo c'è una contraddizione in tutto questo, indubbiamente. Del resto, Grillo l'ha fondato lui, quindi avrà pure... È difficile stabilire in che modo titolo per intervenire in tutte le vicende che riguardano il movimento. La mia meraviglia è di quelli che aderiscono a un barone, cioè tutto qua, potrebbe essere qualsiasi altra persona che non Grillo, ma purtroppo è la mentalità che abbiamo, dimostra anche la mentalità di quello che è intervenuto Duilio ed altri, che hanno, secondo me, c'è ragione Giannino, lo sentivo stamattina, che bisognerebbe guardare ai fatti concreti e non affidarsi all'uno o all'altro, cioè, dovremmo cambiare un po' mentalità. Va bene, grazie Nico, buona serata, grazie. Italo dalla provincia di Trento, buonasera. Buonasera. Prego. Io volevo intervenire, se lei me lo consente, sull'intervento che ha fatto il sindaco di Napoli, Magistri. De Magistris. De Magistri. Allora, De Magistris. Mi pare di poter dire e sentire anche il suo parere, che il lavoro di un sindaco è un lavoro importantissimo, un lavoro difficile, perché, come lei ben sa, accontentare tutti è un'arte che nessuno conosce. Allora, quando questo signore invece cerca di impegnarsi a fare politica a livello nazionale o a livello di partito, vuol dire che tralascia il lavoro di analisi, che è importantissimo, per poter poi arrivare a delle conclusioni che portano alla concretezza e ai risultati. E mi pare che questo signore risultati non ne porta. Guardiamo qual è il problema ancora esistente per i rifiuti. Guardiamo qual è il problema del lavoro. Quelli sono gli impegni che giornalmente questo signore dovrebbe, diciamo, cercare di portare a casa: lavoro e concretezza. E mi pare che invece fare politica per livello nazionale lo lasci fare ad altri, ce ne sono tanti altri. Lui si impegni per i napoletani, si impegni per fare invece concretezza, lavoro per quella città che ne ha bisogno, ordine, pulizia, no? Che sia la pari delle altre città importanti dell'Europa. Napoli è bellissima, sì, Italo, ma bisogna che ci sia un sindaco che lavori seriamente. Io condivido abbastanza quello che lei dice, anche se poi non è escluso che un sindaco, un ministro possano fare anche un po' di politica, però certo che sembra che stia diventando un po' la vicenda dominante per quanto riguarda De Magistris, questa della lista. Staremo a vedere, però sì, diciamo che al fondo ci può anche essere una sorta di incompatibilità. Loro hanno detto che non si candideranno, e questo è già già un elemento di chiarezza. Faranno da animatori di un qualche cosa, staremo a vedere. Sa, si tratta di aspettare settembre, perché poi se nascerà qualcosa che camminerà sulle sue gambe, una lista, un movimento, non lo so, allora i sindaci resteranno solo sindaci che hanno ispirato questa cosa. Se no, se si mettono a fare politica davvero, allora quello che lei dice tornerebbe d'attualità, perché poi a un certo punto uno deve decidere cosa vuole fare da grande. Gianfranco dalla provincia di Cuneo, buonasera, ultima telefonata direi per questa sera. Buonasera. Un minuto per chiudere. Buonasera. Pronto? Sì, la sentiamo Gianfranco, prego. Grazie. Senta, io ho chiamato per esprimere il mio stupore, diciamo, in funzione di questo risultato che ci ha attribuito Moody's, per cui dopo averci criticati forse fin troppo aspramente per mesi e mesi, improvvisamente risulta che un paese con una situazione di rapporto debito-PIL così difficile sarebbe forse salva già nel 2013. Delle due l'una: o la situazione era stata dipinta in maniera eccessivamente preoccupante prima, con effetti chiaramente gravissimi anche sulla nostra economia, oppure la situazione è dipinta in maniera troppo rosea oggi. Quindi come si chiude il tutto? Direi con una riflessione, che servirebbe quantomeno molta pacatezza nel prendere in considerazione le valutazioni di queste agenzie di rating. Sicuramente i partiti a volte dicono noi possiamo farne a meno, in realtà non è proprio del tutto vero. Grazie perché... Gianfranco, dobbiamo fermarci, mi dispiace, finisce qua il tempo a disposizione per questa sera, l'appuntamento con la Zanzara è per domani dopo il GR delle 18, 18, 20 e 30, orario della Zanzara estate. Buona serata a tutti, a domani. Radio 24, la passione si sente.